Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascara, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Una bicicletta nuova ti ho comprato, però tu sei caduto dal sellino ed hai il naso tutto blu. Siamo andati dal dottore, ti ha detto guarirà, basta fare una puntura e tutto passerà. Pronto all'ultimo atto, certo, dovesse essere confermata la Cassazione, eccetera, in carcere, questa. Ah, però certo, deve fare. Pronto? No, perché io spero di no. Quindi pronto, un cavolo. Tanto non è che c'è tanto da preparare, devi fare una borsa e te ne vai. Ci metti due libri e basta. Tempi lunghi, caro Parenzo, tempi molto lunghi per l'estradizione di Marcellone. Tempi molto molto lunghi. Piccolo escamotage degli avvocati. Piccolo escamotage. Ma non c'è nessun escamotage. Ah, non è un escamotage. Ma non c'è nessun escamotage, è il Libano. Non c'è nessun escamotage. Gli avvocati sono malati. Malati. Si sono dati malati, sì. Ma no, ho detto. A questo mi riferivo. Ah, a questo ti riferivi, sì. No, voglio dire, è strano, però. Per rimandare la sentenza della Cassazione, tutti e due malati. Sicuramente. Tutti e due malati. No, c'è un virus in giro tremendo. Questo spettacolare. È sicuro. Questo è sicuro. Però. Tu non hai un sospettino? Ce l'hai o no? Tutti e due. Sì, mo. No, ecco, voglia. Perché sennò sembra solo parente. Ma infatti, secondo me, non dovrebbero rimandare per niente. Io sono tifoso di Dell'Utri, della sua, come dire, della sua fuga, anzi, doveva essere progettata bravo. Meglio, semmai si è trattata di una fuga. Bravo, assolutamente bravo. Sì. Istigazione delinquente. Ma l'ho bravo. Già detto, non c'è doveva un magistrato tornare. In ascolto? Mi rompo i coglioni. No, cioè, capisco. Questa a Santo Domingo si rompeva i coglioni, che devi fare? Però. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Vabbè, Marcellone, sì, grazie, però Marcello. Mi dispiace. Un po' mi dispiace, guarda, sinceramente. No, mi dispiace. Io ricordo con grande affetto. Ma accusato di mafia. Ma quale galera? Allora, tu non sai, non eri presente qui, lo ricordo. Lo ricordo con grande affetto quando veniva qui a declamare i diari di Mussolini, te lo ricordi? Beh. Perché vai con grande affetto? È venuto qui, lo ricordo con grande affetto, grande cultura, un uomo di grandissima cultura. Venne qua a declamare i finti diari di Mussolini, diciamo la verità, no? Diari patacca, diciamo, no? Io, David Parenzo, voglio bene a Dell'Utri. E questo bisogna sempre ma ricordarlo. Ma era un divertismond, era uno scherzo, era ironico. Psicologicamente è una vita che sono pronto al carcere, diceva. Però, sai, quando si avvicina poi, no? Psicologicamente è una vita che sono pronto. Diciamo preparato psicologicamente. Pronto al carcere praticamente. Ma che devi fare? Lo so. Ti ammazzi, detto, nella vita si affronta tutto. Armi in pugno direi anche, aggiungerei io. Armi in pugno. Se ci sono con le armi, se non ci sono si affronta senza. Quello che capita, quello che si può fare si fa. Pare che ultimamente fosse depresso, come ci riferisce la signora Borromeo, con cui intratteneva corrispondenza epistolare via SMS. C'era Beatrice del Fatto, di esatto. Tu. Ah. Di cui diciamo di cui Dell'Utri era anche un po' invaghito, era un grande estimatore, perché... ma che estimatore, era affascinato, ha estimato un cazzo, dai. Era affascinato da questa presenza femminile molto forte, ma non credo, era affascinato dal fatto che fosse il Fatto Quotidiano, sì. Tempi lunghi, amici miei, Marcellone resta in Libano per adesso. Ma tu sei pazzo proprio. Voglio dire una cosina su quello che è successo nel fine settimana a Roma, caro Parenzo. Sì. Lo sai quelle manifestazioni che ci sono state, ecco, dove la polizia, aspetta, dove la polizia ha giustamente picchiato, ha giustamente reagito, calma, con la forza, calma, con la giusta forza, calma. In alcuni casi esagerando, come quello che è stato schiacciato. Vabbè, ma sono appunto cose collaterali. Vabbè, sì, una calpestatina. È una calpestatina, ma allora ma che sei qual matto? È il problema? È un cretino. Ma che sei matto? Ha ma calpestato. Che sei matto, ha calpestato, e qual è il problema? Ma che sei matto tu ha proprio? Ha calpestato, qual è ma il problema? Io veramente alle è volte è passato sopra, ha esagerato, vabbè. Ha esagerato. Ma tu sei baccato in testa proprio, vabbè, sei di una crudeltà inaudita. Ma sei, ha fatto un passaggio sei sopra con la ha fatto un passaggio è sopra una con persona, la persona, matto. Benissimo, mica l'ha ammazzata. Ma meno male che non fai il questore tu. Ma mica l'ha ammazzata. Fai la radio col microfono. Ma scusa, ma secondo te la polizia, ma la polizia cosa deve fare, scusa? Deve stare sempre a guardare? Tu ogni tanto deve reagire. Detto questo, ma di fronte a degli abusi evidenti e a è una situazione piccolo, che è sarà punito, sarà preso e punito mentre sì, un ma hai detto collaterale. Un danno collaterale. Certo, un danno ma collaterale. Ma sei uno militare, sei matto, no, sei. Ma quale matto? Sto dicendo le cose che pensano tutti. Cose che pensano tutti. Devi fare il questore, che smettila. Sono cose che pensano tutti. Tutti criminali. Ma quali tutti criminali? Criminali sono quelli che sono andati a devastare Roma, non quel poliziotto che è passato col piede sopra il corpo di quella persona là. E su questo siamo d'accordo. Quella è un cretino. L'uso misurato della forza. L'uso misurato della forza. Allora, ti voglio dire un'altra cosa. Ha sbagliato. Vabbè, in quel ti voglio caso. Dire un'altra cosa. In democrazia va bene, così, d'accordo. Va bene, com'è. Comincia a parlare. Dai, continua a parlare. Ti voglio spiegare un'altra cosa. La questione della bomba carta. Una stronzata, dici questo. La questione. Ma vuoi stare zitto un attimo? La questione della bomba carta che è esplosa in mano uno, no? Mi sembra, no? Spappolandogli la mano, provocandogli gravi danni. Io dico una cosa molto forte, molto forte. Se uno va ad una manifestazione sulla casa, sui diritti, non so che altro, perché non me ne frega assolutamente nulla, a una manifestazione con passamontagna, casco, bastoni e con una bomba carta, beh, amici miei, se poi ti esplode in mano, posso dire chi se ne frega, sì o no? Primo, seconda cosa che voglio dire, è meglio che sia esplosa nelle mani di quel signore che è andato, ripeto, ad una manifestazione per i diritti, eccetera, con una bomba carta, oppure che, non so, se finiva in testa un poliziotto o in mezzo alla gente assolutamente innocente, persone, passanti, eccetera, eccetera. Secondo voi cosa è meglio? Vi faccio questa domanda, la mia risposta già ce l'avete, è meglio che sia esplosa tra le mani a quello. Cruciani, non devi dire cazzate. No, ma non dico cazzate, dico cose assolutamente corrette. Lo pensano tutti, è meglio che sia esplosa nelle mani. Mi dispiace ovviamente che quello si sia fatto male, però è meglio che sia esplosa tra le mani a quel tizio piuttosto che in testa a un poliziotto, no, oppure in mezzo alla gente. Ah, ma su questo voglio dire, ma se uno detto questo, andiamo avanti. Pace, diritti, casa. Esatto. E va con una bomba carta. Sì, ma questo sì, dove è la bombetta carta, amico mio? Quello mi pare un po' eccessivo, ne possiamo fare a meno della bomba. Poi uno può fare tutte le manifestazioni del mondo, per carità. Ma certo, pensavi che difendessi quello con la bomba carta? Ma che ne so, no, è meglio che sia esplosa. Sei tu il black block della radio, ma sei tu. No, quello con la mentalità da black block radiofonica. Vabbè, che c'è da far sentire? Ah sì, c'è da far sentire la Biancofiore, che ha replicato lo show fatto alla Zanzara qualche tempo fa. E ha fatto cantare la sua Puggy. Meno male che Silvio c'è. Caro Giletti, aggiornatevi però, per carità, va bene, in televisione si vede meglio e tutto, però abbiamo già fatto. Via. Canta, soprattutto le piace molto la canzone Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora. Balla. In questo sogno, presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia, l'Italia che ha scelto di credere ancora. Dai, che ci stavi cantando, su. Basta fare una congiura e tutto passerà. Questo è il 13 aprile di quest'anno, il 17, chissà perché è sempre ad aprile, il 17 aprile dell'anno scorso, Biancofiore canta Gente della Libertà con Pughi, Sce la Zanzara. Grande sogno che ci unisce, un sogno grande che ci islamizzerà. Avete visto che canta? Vai, vai, fammi cantare. Adesso sa che ci unisce, bene vincerà. Per sempre grande la nozza che ci amiamo. Non mi mordere il dito. Vabbè, uno, una volta una cazzata la può fare, ma due, chiami tu? È già partita, guarda. È già partita. E non mi mordere il dito. Non mi macchiare il mio vestito. Oh, c'è anche la Sant'Anca che dice che la cagnetta mia. Chissà perché hanno tutti una cagnetta, noi non ce l'abbiamo, siamo delle belve, siamo io da bambino avevo un cane che io si chiama, non ce l'ho, per carità. Cocchi. Beh, per tu sei un animale, carità, perché tu sei un animale di tuo. Assomiglia a Sallusti, ma no, io non le posso sentire queste cose, assomiglia a Sallusti mia. Si dice che insomma un po' i cani prodi, i padroni si somigliano, nel senso. Io trovo che assomigliasse a Lustini, il profilo è assolutamente uguale. Un po' di tempo fa gli avevo fatto una foto dove tutti e due sono di profilo e devo dire che si assomigliano. Vabbè, traffico sulla voce di Crosetto, dell'amico Crosetto che annuncia la candidatura del Roscio, sai quello di coso, come si chiama? Bracconeri. Ragazzi della terza C. Sì, Bracconeri, candidato. Beh, il secondo lo conosci anche, sì, forse, è Fabrizio Bracconeri, attore caratterista. Che... Fabrizio, facci sentire qualcosa in romano, come sei tu, dai. No, che c'entra, in romano no, dico buongiorno a tutti. Non passa il presidente. Il romano è della Roma, romano è pure della Roma, anche. Notoriamente. Quando la zanzarita tormenta la mia notte. E ancora qua, Simo. Ci sarebbe da parlare anche, caro Parenzo, di quello che ha scritto Grillo, oggi sul blog, Balla col ritmo bueno, non meno male. Meno male che ha introdotto questo, questo argomento, ma avremo modo, spero, per ma non per affrontare. Non capisco quale sia il problema di evocare Auschwitz. No, non è evocare. Sì, non è evocare quello. Auschwitz, non capisco. Ma tutte queste tutto, polemiche. È rendere tutto una pagliacciata. Beh, se non ti rendi conto di cosa ha rappresentato per l'Europa quel posto là. Sì, e scherzarci sopra per le sue puttanate elettorali. Vabbè, comunque ne parleremo più avanti. È con noi Vittorio Sgarbi. Vittorio, buonasera, come stai? Ma siete mai stati a Bominaco voi due? Dove? Bominaco. Ma Dominaco che è in Abruzzo, dove cazzo sta? È la più bella chiesa di tutta l'Italia centrale. Addirittura. Anzi, almeno come la cappella degli Stroveni. Ma noi siamo delle bestie. Dovete venire, fate un salto qua, venite a Bominaco. E ci abbeveriamo di un po' di cultura. E tra l'altro il terremoto l'ha appena sfiorata. Meraviglioso, 1263. E tu che sei andato a fare là, scusami? No, sono venuto così, io ho fatto un discorso a Teramo, un pittore che si chiama Celommi, e oggi mi sono fermato a guardare un po' dei luoghi terremotati. Onna, ti ricordi dove andò per lo scorso? Beh, come no, certo. Fu l'apice del consenso di Berlusconi. Senti, ma... sono tutte casettine brutte, sono una tristezza pensare a quello che era stato. Invece Bominaco domina. Domina Bominaco. Ma c'è anche il professor Oliva, no? Chi è Oliva? Ma no, quello poi ah, Bonito Oliva. Cioè, voi avete sopravvalutato un personaggio allievo spiritualmente di D'Agostino che fa delle battute, ma non ha idea di cosa sia l'arte. Vabbè. L'arte non può essere improvvisamente un pezzo nuovo che l'arte contemporanea. Quello si chiama moda. L'arte è tutta contemporanea. Ma lui dice che tu sei un ignorante, un cafone. Infatti facciamo un esame, vediamo cosa ne sa lui. Cioè, io sono pronto a qualunque sfida con questo poveretto. D'altra parte lui mi ha... belato e forse ha dato pure dei soldi. Sì. Io dicendo, lui non so se valga la pena. Ma sì, l'hai presa a parolacce una volta. Dovrebbe esistere, perché allora esisteva, adesso poveretto, è scomparso. Signor Bonito. Ah, no, tra l'altro, sai, ha fatto peggio di voi. Cioè? E peggio di me, che ho fatto meglio di voi. Ha fatto col suo programma 6 puntate pagate dalla Rai, 1,39. Beh, non l'ha guardato neanche sua zia. Vabbè, è un cacciatore di merda, incapace di parlare d'arte. Ammorbato all'ora del TG della trasmissione, che doveva essere quando c'era il nostro Valerio, ma c'era il 7-8%, 1,3. Voi siete stati il doppio di lui. Pagati da pagato dallo Stato, dici. Pagato dallo Stato, pagato. Bonito Oliva. Bonito Oliva. Uno che non è capace di raccontare l'arte vuol dire che non lo sa. Ma dice anche quando che io vado a virus, invece era doppio gli ascolti. Comunque mi ha messo in dubbio anche le tue capacità amatorie tra una cosa e l'altra. Vabbè, per quello, ma chi se ne frega? L'essenziale è che non le mettono in dubbio quelle che le sperimentano, no? Ma con chi stavi prima? Con una gentile signorina? Con chi stavi? Passamelo. Bellissima, una ragazza bellissima. Passamelo un attimo. Sensualissima, no, te la posso parlare. Puoi parlare con loro? No, non vuole parlare perché... No, ma giusto per sentire la voce sensuale. Ciao. Ciao tesoro, come ti chiami? Salve, cara. Manuela, beh, quanti anni hai? I miei. No, vabbè, dici quanti anni, giusto per sentire la voce. No, ha una certa età, cioè, 32-33 anni, 31. Come 31? Come una certa età? Scusa, Vittorio, ce n'è più di 60 tu. No, sai che ci fu un tempo, un anno e mezzo fa, sui giornali inglesi, un'indagine sull'età. L'età ideale di una donna è 31, anche se ne ha 20. Ma tu la più piccola con cui sei stato, quanti anni aveva? Ne avrà avuti... 14? No, 14 no, ne avrà avuti 17. 17. Anzi, era una ragazza... Non mentire, poi è stata la prima fidanzata di Berlusconi, poi. Addirittura. Era la ragazza di Arcevia, che fu fotografata con lui, quando ancora non c'era la legge Rubi, mano nella mano ad Arca... in Sardegna, era una ragazza di Arcevia, molto carina, che poi si è sposato, le ha fatto il testimone di nozze e ha lavorato per Rete 4. Ma io non ho capito, tutte quelle che sono andate con Berlusconi prima sono passate da te? Prima le ho viste io. Ma quante? Io, no, mica tutte però, mica tutte, proprio tutte. Insomma, no? Una buona parte, dici tu. Quelle più libere, più serene. Io mi stupisco come Sgarbi non sia nella, non sia nella, come dire, in corsa per una delle società pubbliche oggi. Sarebbe vero, quello è incredibile. Sì. Quello è veramente incredibile. A Leni. Anche tu, non potremmo andare lì a Leni. Sì. Caroni, 6 milioni di euro all'anno. 6 milioni. Tu con te che vai in giro tipo nell'Uzbekistan e dici: ma che cazzo è questa trivella? Ci vuole dell'arte. Dici: ma questa è una trivella, però. Beh, scusa, una volta comunque devo dire che la cosa migliore di quello che avete fatto dopo Radio Belva, sì, è l'assestamento e il miglioramento di Parenzo. Ancora, tu sei fissato con questa cosa, è peggiorato. Sei fissato. No, c'era un momento in cui era un po' di maniera, adesso le cose che dice le pensa e le puoi è peggiorato. È più naturale nel dire, sì, le cose. Ah, forse quello sì, è più naturale. Io volevo capire una cosa, ma tu una volta ti sei incazzato per questi compensi, no? Per questi compensi dei manager. No, mi sono incazzato, ho fatto il discorso, sono il primo ad aver detto nessuno. Cioè, che non vuoi pagare le tasse finché questi qua prendono tutti questi soldi. Ma mi pare evidente, devo pagare le tasse per darle a Scaroni o per darle a quello dell'Ener che mette le pale eoliche. Fulvio Conti, il tuo nemico, Fulvio Conti. Fulvio. Non voglio pagare una lira per questi qua. E poi ho detto: se il Presidente della Repubblica prende 200 o 300 che ha, mille altre agevolazioni, però quello è lo stipendio più alto, non è che ci può essere uno che tu nomini e prende. Anche gli assessori, quando ero assessore, prendevo 3.900 euro al mese. Sì, sì. I miei funzionari prendevano 230.000 euro all'anno. La carriera interna del burocrate che fa. Ma scusa, il segretario generale della Camera e del Senato prendono 479 e 427. Mi rendete conto? Della Boldrini, che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, tu fai presidente della Camera e prendi meno del tuo funzionario. No, ma il segretario generale, uno dovrebbe pagare le tasse e le paghi. Per carità, le paghiamo. Non dobbiamo più pagarle, basta, non dobbiamo pagarle, paghiamo le cose che sono utili, non quelle cose. 479.000 euro a Ugo Zampetti, 427.000 euro l'anno a Elisabetta Serafini, e poi dicono: beh, c'è l'autonomia istituzionale, non si possono ridurre. Perché? Ma quale autonomia? Con un tratto di penna bisognerebbe farlo. Ma se è bravo, se le merita, come un manager. Ma che merita? No, ma non capisco perché devi prendere più del tuo presidente. Guarda che non è cambiato Parenzo, non è cambiato Parenzo. No, però sai cos'è? Sai, no, in questo lo difendo, nel senso che non è colpa del burocrate. Che prende, vabbè, certo che non è colpa sua, è colpa di chi sì, gli dà, perché c'è? Lui se mette una firma sbagliata finisce in galera. Ma non è vero. Comunque parametrarono lo stipendio dei parlamentari sul presidente di Cassazione. Beh, certo. Basta stabilire un tetto, certo, sia quello o l'altro, ma non si può dare che un tuo segretario prenda più di te. È una cosa inaudita. Senti, ma Bonatto, nominato da Napolitano, prende il doppio di Napolitano. No, ma non è possibile. Dimmi una cosa, ma Bonaiuti che è passato con Alfano, come lo giudichi? Tanto devo darti la notizia che non me l'aspettavo, ma la cancellieri mi ha querelato, perché ho detto: Puzzona raccomandata da Napolitano. Il mio avvocato dice che Puzzona è semplicemente una valutazione di natura olfattiva, Napolitano è un dato logico. Vabbè, ve la vedrete in tribunale. Puzzona. La questione che dicevi di Bonaiuti ha fatto un errore Berlusconi, perché Bonaiuti è un pezzo d'antiquariato che andava tenuto anche se non porta voti, ma non ne portava lui, ma non ne porta neanche agli altri, anzi con gli altri sembrerà un traditore, quindi l'errore è stato doppio di Napolitano, di Berlusconi. Ma la colpa è del cerchio magico, quella esautorato, gli scatoloni. Esattamente, c'era la Gabriele Paolini, detta, come si chiama lì, la Romero Dario Rossi, che sembra il Paolini che stava dietro le fotografie, che è lei, che queste due hanno messo in mezzo il poveretto facendogli un cordone sanitario e psicologico. Ma pure Toti ci ha messo del suo, pare che abbia portato gli scatoloni via. Sì, questo. Toti gli abbia fatto trovare gli scatoloni. L'ha fatto, è gravissima questa cosa. Non tanto per Bonaiuti, è una delle poche persone di buon senso che non ha fatto nulla di particolarmente rilevante e non ha un portato di voti. Sì. Non li porta neanche dall'altra parte. Poi sono pensato: non perdiamo nulla, però perdete un minimo di decoro, che è quello di lasciare i pilastri di una cosa. Dunque ha fatto bene, secondo te? Non è un traditore, come dicono molti, di Forza Italia, Toti? No, ha fatto malissimo anche lui. Cioè, ha fatto male Berlusconi a non trovare il modo. Ma poi va con Alfano, va con il tuo amico Alfano. Va con Alfano, che è come andare nel cesso, insomma. Quindi ha fatto un errore. Cioè, non è che vai verso il. Meglio che tu te ne vada a casa, perché poi non verrai eletto, non faranno il 4%, farai una figuretta e sarai per traditore. Senti, zio Vittorio, ma di Alfano che annuncia lui, e lo sappiamo perché lui è stato sempre un nemico storico di Dell'Utri, almeno negli ultimi tempi, lui in persona annuncia l'arresto, il fermo di Dell'Utri a Beirut. Messo degli interni. Sì, vabbè. Ma d'altra parte, sai, il problema di fondo lì è la contrapposizione tra la posizione di Merlo e la mia rispetto a Dell'Utri, perché io parlo dell'habeas corpus. Vabbè, no, non mettiamola complicata questa cosa. No, che ci vuole il reato, ci vuole il corpo del reato. Ah, certo. Se io chiedo adesso a Parenzo, che dovrebbe essere favorevole all'arresto, qual è il reato di Dell'Utri? Non c'è nessuno in Italia che te lo sa dire, cioè di uno che uccide, che stupra, che ruba, no, concorso esterno. Concorso esterno. È la famosa discussione sulla, come dire, sul concorso esterno. Il concorso esterno potrebbe anche esserci, fosse finalizzato a qualcosa. Ma se io vado a pranzo o vado a trovare in carcere un mafioso e non faccio niente con lui, posso fare una cosa che può essere discussa. Vabbè, là ci sono 20 anni di processi su Dell'Utri. Sì, ma non c'è nessuno, però chiedo a voi che lo sapete, qual è il suo reato? Ma sì, avere avuto contatti, avere essere stato. Non è un reato, dico, cosa ha fatto? Avere essere stato da tramite con Berlusconi, dico, allora registrato. Perché non incriminano Berlusconi? Infatti ci hanno provato, non ci sono riusciti. Se non hanno trovato criminabile Berlusconi, non possono criminalizzare neanche l'altro. Ma secondo te. Sai qual è il reato vero? Qual è? Il reato vero è la sua strafottenza, aver dichiarato il mio eroe Mangano. Sì. E Mangano è la chiave di tutto. Perché lui ha assunto nel 74 Mangano come factotum, ma non esiste un accordo criminoso fra i due. Tant'è che nella follia di gente come Busi, a un punto Busi fa un elogio della Veronica Lario. Ma lui sapeva che era mafioso, perché? Perché poteva cacciare il Mangano, che era mafioso. In realtà, quando è arrivata e ha sposato Mangano, non c'era più. Cioè, la gente parla. Allora, il problema di Mangano non è che sia mafioso o meno, e quando è stato assunto non lo era e non ha fatto niente. Vabbè, ma al di là di questo, che deve fare secondo te adesso? Deve fare in modo. Starsene in Libano dove morirà. Purtroppo, morire in Libano non è molto divertente, ma tornare in Italia. Beh, guarda che Beirut non è male, purtroppo bisogna. Sì, vabbè, tutta la vita lì sarà lì che deve fare. Ma no, dipende. Almeno, soprattutto se c'è una lezione di diritto, che è quella di dire che qualcosa esterno non è un reato, che corrisponde a un fatto. Battisti ha ucciso. Ma questo cosa ha rubato? Che vantaggi ha avuto? Poi che posizioni ha avuto nella vita? Ha avuto senatore che non conta un cazzo. Che ha fatto? Cioè, non è stato mai neanche assessore, mai sindaco. Cioè, che favori puoi fare alla mafia? Dietro le quinte puoi fare un sacco di favori. Un attimo solo, fermi tutti! Giornale Radio. Comunque devo dire che la cosa migliore di quello che avete fatto dopo Radio Belva è l'assestamento e il miglioramento di Parenzo, che mi pare quasi perfetto. Candidato, il direttore non è candidato, non usa i pannolini, neanche i tasmanni dei pannoloni. Benvenuta nel mio spazio sotto il salice, salice. Ma vabbè, ma Cruciani ormai è diventato un sovietico. Vittorio? Ecco, perché a Prata d'Ansidonia siete mai stati voi. Dove? Dove? Prata d'Ansidonia, c'è un pulpito di una travolgente bellezza. Come si chiama esattamente, che lo segnaliamo? Prata d'Ansidonia, viene da una chiesa di San Paolo. Prata d'Ansidonia, sì. E hanno portato questo pulpito del 1100 di travolgente bellezza. Pulpito del 1100. 1240. Ma chi è quella che ti accompagna? Si può sapere, una tua fidanzata, una tua amica? No, qui c'è una signora dotta che conosce nel dettaglio, quella che mi accompagna è una bella ragazza di Urbino. Ma perché stai sempre con qualcuno? Ogni volta è accompagnato sempre da donne. Faccio condividere le cose che vedo, quelli che mi accompagnano. Allora, ti faccio sentire Alfano, che ha detto una cosa sulla mafia. Sono sicuro che ti scatenerà qualche cosa questa cosa di Alfano, senti. Abbiamo approvato le più grandi leggi di contrasto alla mafia, all'andrangheta, alla camorra, e sulla forza di questi successi noi diciamo, andranghetisti, camorristi, mafiosi, di non votare per noi, non votateci, perché ogni voto che darete a noi sarà speso contro di voi. Capito? Mafiosi, non votateci, dice. Sembra il Papa. No, devo dire, la formula è suggestiva, ma tanto è inutile, perché non prenderanno voti né da quelli né dagli altri. Vabbè, quello vedremo, dai, quello vedremo. È sicuro, cioè i mafiosi non li votano su richiesta esplicita. A parte che potrebbe essere un accordo segreto attraverso una considerazione retorica. Gli altri non li votano perché non hanno ragione di votarli, perché piuttosto che votare Alfano non vota Renzi, no? Non c'è nessuna differenza, visto che sono al governo. Vabbè, quello poi vedremo come andrà a finire. La formula, dal punto di vista retorico, non era male. C'è da dire che però non si capisce cosa abbia fatto Alfano contro la mafia. Nulla. Perché non è stato in grado di impedire nulla fatto contro Agrigento, né da piccolo, né da grande, né da democristiano. Non ha impedito la distruzione del paesaggio, che è quella che ho denunciato io, per cui hanno cacciato me. Sì. Ha prorogato lo scioglimento di Reggio Calabria, dove c'era il suo... Quello che porta più voti di tutti, o portava, è Scopellitti. Sì, sì. Scopellitti ovviamente stava in un territorio in cui i voti vengono da 'Ndrangheta, quindi lui deve rinunciare a Scopelliti, o Scopelliti rinuncia a lui, quindi nella sostanza dice una cosa. Senti, ma perché c'è questo fuggi fuggi da Forza Italia? Berlusconi depresso, sembra forse anche Bondi, forse. Beh, forse il anche... tema di fondo è questo. È lo scioglimento, no? Quanto prenderanno? È l'8 settembre. No, il dato è questo. Quelli che non vogliono votare la sinistra continueranno a votare da quella parte, ma occorre che qualcuno prenda il posto di Berlusconi. E come io dico da sempre, ma non si capite evidentemente, non può essere quello Alfano che è suo figlio e delfino che lo tradisce, deve essere qualcuno che quindi prende più voti, la Lega, e prenderà un po' di voti Fratelli d'Italia. Quello che resta di Forza Italia lo eredita Fitto, perché Fitto candidandosi mostrerà in una Vabbè, ma Fitto, dai, Fitto, su. Ma dico di Forza Italia, non dico... No, il problema è chi prenderà più voti di quello che resta. Io credo che stanno tra il 12 e il 15. Però il complesso dei voti... Ma 12 e 15 è un disastro totale. Sì, per Forza Italia, ma è molto per un partito. Se poi ci aggiungi un 3 quasi 4 di Fratelli d'Italia e un 5 quasi 6 della Lega, ti accorgi che i voti rimangono comunque nell'area della coalizione. Vabbè. Quindi non sarà una... Quello che manca è proprio fuori di Forza Italia, entro la quale resta Fitto, qualcuno che prende i voti che erano di Berlusconi con una formazione nuova. La formazione nuova non c'è, per cui vabbè, non si può votare perché senti Vittorio, ma vuoi fare una cosa, colpito, vuoi fare gli auguri ai due gay sposi o non te ne frega niente? Ma li conosco, tra l'altro uno di due è un architetto bravissimo e l'altro, credo Stefano Bucci, è un vostro e nostro collega del Corriere. Sì, sono due, beh, vabbè, voglio dire, ma sai, se poi le persone che come gli auguri, fai gli auguri alla coppia gay, tu, proprio tu. Beh, sì. Non alla coppia gay, al fatto che i due siano così privi di buon senso individuale che si sposano. Cos'è bello dell'essere omosessuali? Che uno si fa i cazzi suoi, si chiamano cazzi suoi per quello, e quindi che l'individuo prevale sulla coppia. Se vuoi invece cadere nel matrimonio che è tipico delle coppiette eterosessuali, Addirittura si sono fatti registrare il matrimonio a Grosseto. Oggi c'è stata la trascrizione, però prima TG3. Ladies and gentlemen. E adesso i titoli del TG3. E ascoltate cosa deve dire. Lungo faccia a faccia Renzi Padoan per decidere i vertici di Eni, Enel, Finmeccanica e Poste, obiettivo volti nuovi, competenze più donne. Forza Italia lavora le liste per l'Europeo, giovedì la presentazione ufficiale, dopo l'addio di Buonaiuti, il timore di nuove fughe. Grillo attacca Renzi e Napolitano parafrasando Primo Levi sul blog foto di Auschwitz taroccata, la comunità ebraica è una profanazione criminale. In rete i redditi dei parlamentari, Berlusconi resta il più ricco ma nel 2012 le sue entrate precipitano da 35 a 4 milioni e mezzo. Quel poliziotto è un cretino e lo puniremo, dal capo della polizia dura condanna alla gente che negli scontri di Roma calpesta una ragazza a terra. In attesa della richiesta di estradizione dell'Utri resta detenuto a Beirut, domani possibile rinvio anche per la Cassazione, malati due legali. C'era uno scogliettino e ho dato una botta al processo per il naufragio del Gillo, la telefonata tra Schettino e l'unità di crisi di Costa Crociere. La zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa. Ma tu lo sai che sono arrivate 7000 candidature per fare gli agenti dei servizi segreti? Te l'ho detto sabato. Sì, appunto, 7000 candidature per fare gli agenti dei servizi segreti. E ne sono stati scelti 1500. Tra i quali pare che saranno poi scelti definitivamente ingegneri, fisici, matematici. Una delle caratteristiche richieste è la discrezione. Immagino che tu non hai mandato il curriculum tuo. No, io sono molto discreto. Molto discreto. Molto, molto discreto. È vero, molto, molto discreto. Amico mio. È vero, è così, è così. Appunto. Restare al buio. Salvatore da Bari, buonasera. Io non capisco perché. Un attimo, Salvatore, io non capisco il motivo per cui, per carità, lo deve fare, perché lo deve fare il capo della polizia. Si concentri su quella roba. Non dire stupida. No, aspetta. Vuoi stare calmo? Vuoi stare calmo? Stai per dire una No, fammi finire, fammi finire. Benissimo, benissimo. Prendessero quel tizio che ha calpestato la ragazza, lo condannassero, lo sospendessero dal servizio. Punto. Resta una piccola cosa rispetto alla devastazione che c'è stata, la devastazione, capito? alla devastazione, a questo gruppo di delinquenti che puntualmente rompe i coglioni in una città. Ma non c'entra niente con gli abusi. Oh, gli abusi e col piede, ma perché ha dato devi una dire delle stupidaggini per forza? E dai, una calpestatina. Il capo della polizia piede, che è persona per bene e sensata, ha deciso di aprire un provvedimento, vabbè, lo ha definito in quel modo e arrivi tu Non ho detto da niente. Viale Monterosa ti... non capisco perché. Ma va bene, va il bene. Capo della polizia, ma ti rendi conto? Va bene, va ma bene. Ma ci rendiamo conto? Ma di cosa senti, stiamo io sono parlando? Sicuro che la maggior parte delle persone che sono all'ascolto in questo non momento, dire cose per la maggior stupide. Parte delle persone, ma cosa c'è della maggior parte delle persone? È contraria a qualsiasi provvedimento nei confronti di questo poliziotto. Salvatore da Bari, fammi sentire Salvatore da Bari. Cosa pensa la gente? Fammi sentire Salvatore da Bari. Vogliamo parlare di Filippo Gallinella, un deputato dei 5 Stelle, il quale quando ha compilato il modulo per la dichiarazione dei redditi, no? È uno di quelli a 0 euro praticamente. Sì, come tanti stato loro, civile, no? Stato civile, ha messo italiano. Italiano, sta invece di certo, poi corretto, nubile, certo. Ha corretto con sposato. Stato civile, cioè, italiano. Beh, dai, tu. Su. Cioè? Sopra il mio braccio. Salvatore, dai. Buonasera, Crucia. Dimmi. Poi se non ci crederai, ma io sto a Milano, eh. Vabbè, vai a trovarlo allora. No, pare che tu mi devi dire se ci hanno mandato su questa terra o ci sei venuto da solo. Andate. Questo è quello che ha detto. Questo è carino. Cos'è che vogliono questi qua che stanno accampati a Roma? La carta. Vogliono il lavoro? Sì. Altro vogliono? La macchina? Non lo so, forse qualche lo sì. Altro vogliono? Forse lo stipendio fisso al mese senza fare un cazzo. No, vabbè, quelli già ce l'hanno, già. Ah, tu dici? Qualche altra cosa, abbiamo qualche donna pure? Sì. Ma non lo so, può darsi pure che vogliano dallo Stato le donne pure, sì. O i maschi. La pretesa di questa gente, io proprio non riesco neanche a concepire. Chiariamo, Salvatore, caro, la questione della casa non è una questione stupida di per sé, eh? Cioè, chi ha protestato, ecco, arrivato, non è che ha è tutti arrivato. I torti. Sbagliano dei metodi. Non ha tutti i torti. Certo. Ha le manifestazioni per la casa. Certo. Cioè, io e te ci facciamo un culo così per fare i mutui, per comprare la casa che vogliamo, certo. E la gente ha il diritto alla casa. Ma sei normale o no? No, momento. Non è così semplice come l'hai detta. Salvatore, che volevi dire? Il problema sulle case sfitte che non vengono riassegnate. Mi fai sentire, Salvatore. Ma chi se ne frega? Le case sfitte sono dei proprietari. Salvatore, no, dimmi. No, momento. Davide? Sì. No, ma ti dispiacerebbe andare a fare in culo? Siete Salvatore, mi dici per favore che vuoi proprio. Io questo volevo dire. Un normale italiano, un normale cittadino italiano, per farsi una casa lavora una vita. E forse neanche riesce a pagarla. Arrivano questi, da dove cacchio vengono loro? Vogliono il lavoro, vogliono la casa, vogliono questo, vogliono. Ah, voi, ma chi cazzo siete voi? Bravo, bravo. Salvatore, com'è che dicevi l'altro giorno? Spettacolare questo, spettacolare. Ma ci rendiamo conto? E gli italiani allora che cosa dobbiamo fare? Ma ha ragione Salvatore, Parenza, ha ragione Salvatore. Gli c'è altri poco sono, da fare. Posso informarvi? L'avvocato delle cause perse. Ma qua non c'è nessuna causa perse, c'è ragionare sulle cose. Allora, primo. Ma che devi ragionare? Fammi capire, cosa che devi ragionare? Capisci a me, Salvatore, sì. Capisci a me, noi dell'Italia dei Valori. Abbiamo. Ma lei, l'Italia dei Valori. In Italia però abbiamo detto sempre che la magistratura è la cosa dell'utri. Abbiamo sempre detto questo, arrestato. Allora, la questione è molto semplice. Non sono. Quelli sono italiani, non è che sono immigrati. Ma beh, è una provocazione, ho detto. Quelli, fatto no, Salvatore, quelli, ed è gente che magari lavora, sì. Guadagna pochissimo come il monte delle persone che ascoltano. E vede che, ad esempio, le amministrazioni comunali hanno delle case sfitte, sì. Che non danno vabbè. A canone a geo. No, sì, vabbè, senti, vabbè, c'è uno che ha scritto. Se tu sei nato ricco, come sei, e hai case in giro dappertutto e guadagni tanti soldi. Me la prendete stasera con questo. Freghi, me la prendete, delle persone, me la prendete con questo stasera, con queste cose che sta dicendo o no? Se tu sei ricco, esiste deve solo, sapere che tu sei esiste molto ricco, solo no? Il mercato, allora. Punto e basta. Esiste solo il mercato, il certo. Resto sono tutte cazzate. Spettacolare, spettacolare. Le zanzare. Lo sbrocco in diretta del professor Antinori. Sentite. Scusiano. Non vengo più alla vostra sede, non mi chiamare più, che non verrò più che siete scorretti. Perché questa storia è stata inventata apposta contro di me. E voi no, adesso se ti incontro, manco ti guardo. Dite, parente, diglielo, perché siete scorretti, questa cosa è una falsa storia. No, ci sono gente che è un falso, come a me mi dissero un giorno che tu eri omosessuale, a me poi non mi risulta, voglio dire, non puoi dire a me appiccicarmi delle colpe che non ho. A un certo punto sbatte giù il telefono, lo richiamiamo, senti. Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascalzone, non ti stai lontano perché tu sei un delinquente, arrivederci. Professor Severino Antinori, incazzatissimo, incazzatissimo, perché gli abbiamo fatto una semplice domandina su una vicenda giudiziaria in cui è coinvolta la sua società, diciamo, e lui in persona. Cioè, la vicenda incredibile dello sperma di un ragazzo in coma, la cui madre vuole utilizzare per rimanere incinta, una cosa incredibile. Lui smentisce, ovviamente. Sono piccolissimo. Zitto, zitto. Si è consegnato, cioè si è consegnato, si è presentato di sua sponte alla questura, l'agente vestito di beige, dopo aver visionato le immagini che ritraggono un agente, questo è il comunicato che è abbastanza paradossale, che ritraggono un agente che calpesta una ragazza durante gli scontri. Mi fai leggere o no? In borghese devi dire. Dopo aver visionato le immagini che ritraggono un agente che calpesta una ragazza durante gli scontri verificatisi nel corso della manifestazione del 12 aprile scorso, in questura era stata avviata un'inchiesta, eccetera, eccetera. Nelle more di tale attività, un operatore della questura di Roma si è presentato essendosi riconosciuto. Questo è abbastanza incredibile, si è presentato essendosi riconosciuto. Cioè, siccome si è riconosciuto, si era praticamente dimenticato forse di essere, di avere calpestato quella ragazza. I relativi atti saranno trasmessi all'autorità giudiziaria e valutati per gli aspetti disciplinari. Disciplinari. Tu pensate, una calpestatina mentre quelli hanno devastato mezza città. Una calpestatina. Ma per dire l'idiozia ti pagano anche. Allora, no, ma stai zitto un attimo. Penso, io dico quello che penso sempre. Ma è un'idiozia questa. Un ascoltatore mi scrive, ce ne sono tanti che mi hanno scritto. Zitto Parenzo. Ma ti zitto Parenzo. Ha ragione Giuseppe, se vai a fare casino in piazza e prendi due manganellate sono cazzi tuoi, tutta la vita forza ai poliziotti, buona trasmissione, perché è quello che pensa la gente, se vai in piazza a fare casino, se vai in piazza a fare casino, poi ti prendi una manganellata, una calpestatina, un calcetto, è così che succede, non è successo nulla di grave, cioè non è che l'ha massacrata, va bene. È passato sopra, cosa grave, è un cretino, pagherà, però non è successo nulla, non stiamo difendendo i violenti, non sto difendendo i violenti. Ma io non sto dicendo che stai dici difendendo stupidaggi. I violenti. Non sto difendendo Gianni i violenti. Gianni ho detto che chi ha stupidaggi. Gianni da Modena. Mai siete tante stupidaggi. Ma infatti tu sei l'unico intelligentone, sei tu. No, Gianni da Modena. No, proprio per titillare gli istinti più bassi. Ma quali lo fai? Più bassi? Proprio l'istinto. Vabbè. Perché è facile dire una roba così? Gianni? Proprio stupida. Gianni? Stupida. Sì. Pronto? Dai. Niente, io volevo intervenire sul dibattito che c'è stato sulla manifestazione di Roma. Sì. Purtroppo non ho sentito l'ultima mezz'ora, ma mi è bastato capire la prima parte. Sì. Io, come mio, con la mia testa, esprimo un mio pensiero. Sì. Io credo che le forze dell'ordine debbano fare loro, in primis, quello che è la sicurezza della gente e non manganellarla. Però quando ci sono queste manifestazioni, sì, dove la gente va per picchiare la polizia, per distruggere i negozi, bravo, per distruggere tutto e non per difendere delle cause, perché quei poveri disgraziati che erano lì veramente per difendere la loro causa, per la casa o per il mondo del lavoro, diciamo, sono stati oscurati da questi idioti. Sempre così, sempre i soliti discorsi, quelli oscurati. Ne hanno prese poche. Si sono massacrati tra di loro, tra l'altro, alcuni. Ne hanno prese poche e io adesso devo pagare anche le spese di questi deficienti che sono andati a farsi curare. Io, questa gente, dopo le manifestazioni che si vanno a far curare, nome e cognome, gli addebito tutto quello che io come cittadino devo andare a pagare. Questa è una vergogna. Devono smetterla, e se queste cose continuano, io non mi giro dall'altra parte se qualcuno cominciasse a tirare randellate nei denti a chi ha i caschi in testa o qualcosa di più pesante, così la smettono. Vabbè. Io ho fatto il 68, sono andato sì, ma ho capito Gianni, ho capito bene. Giuseppe, provincia di Chieti, dai. Buonasera, dottor Cruciani. Oh, eccolo, va, eccolo. Eccolo, Paenzo, preparati, eccolo. Chi è questo? Non lo conosco. È il maestro qua, il maestro della provincia di Chieti, il solito. Quello gente. Che ha 9 telefonini ogni volta, sì, c'ha 1000 numeri. A Cruciani. Vai, Giuseppe, vai. Ha decaduto. Vai, vai, vai, Giuseppe, vai. Senta, ma cioè, il contratto le dura un anno o due anni? Com'è la storia con Radio 24? Ma no, lei è veramente un cretino. No, no, vabbè. Ma perché lei è così cretino? Ma perché lei è così cretino? Detto da Cruciani. Ma perché lei è così cretino? Cioè lei allora, è proprio un cretino. Allora, con gli ascolti in picchiata, no? Perché io quando ho cominciato a sì. sentire Radio 24, io sentivo Barisoni, sì. Giannini. C'è ancora? Sì. Giannino, no? Giannini, quello è l'ex Giannino, giocatore della Roma. No, scusi, super intelligente, ho detto sì. Giannino. Sì. Sì. Poi? Giannini poi era qualunque lui, no? Adesso lei sta decadendo, sì. No? Il contratto, vabbè. Adesso Barisone è diventato vice direttore, no? Lei di che cosa ma scusi, ma noi che cosa ce ne frega di quello che dice lei sugli equilibri bravissimo, interni? Bravissimo. Ma che ce ne frega a noi? Che gliene frega la gente? Imbecille, cosa gliene frega? Ma, grazie dell'imbecille. Ma lei è, imbecille così, come dire, senza... No, ma io prima la difendevo quando attaccava Giuseppe, che poi non so come si chiama lei, Giuseppe è un nome così, nom de plume, come si dice, no? Un nome... Come lei, Giuseppe, no? Sì, nome... Giuseppe, lei si chiama, è il vero nome questo qua. Sì, è il vero nome. Sì, è il vero nome. Ma che nella vita lei che fa? Già gliel'ho detto l'altra volta. No, ma lo ripeto, me lo sono dimenticato. Che fa? Che c'ha? No, ma glielo ripeto, no? C'ho una piccola impresa edilizia industriale e mo, siccome devo assumere due manovali, no? Sì. Allora, mo che lo cacceranno, se mi mandi su curricula, no, è curriculum al singolare, curricula è al plurale. È bravo, intelligentone, bravo. Sì. Due manovali, cioè abbiamo demolitori ad aria da 40 kg. Va bene, vedremo cosa fare, no, Giuseppe. No, vedremo cosa fare. Prima o poi lo cacceranno. Sì, può darsi pure che me ne vado io, manco, non è detto mica. E dove va, Crucia? Dove va? A zappare la terra. Bravissimo, hai capito Giuseppe, hai capito? Ma là si suda, Cruciani. A me piace sudare, a me piace sudare, ma veramente. A me piace sudare, in altre cose piace sudare però, Giuseppe. Cose ma lo so che a lei piace sudare. Cose che lei cose. Sicuramente non fa. Giuseppe. Ma questo, guarda, questo lo dice lei, capito? Beh, ma si sente dalla voce, si sente dalla voce, Giuseppe. Si sente dalla voce perché sono un po'... scusi, ma la domanda da super intelligente, lei, sì. divulgatore sì. scientifico, no? Sì. La voce di una persona, secondo lei, cioè, lei che è super esperto, no, di preservativi, l'altra sì. sera parlavo con Fede di pannoloni, sì. è un allevatore di pappagalli, fra l'altro. Sì. Pappagalli, no? Cosa gli mette al suo pappagallo? Di che razza è? Cosa? Il pappagallo che alleva, no? Sì, sono io. Di che razza Parenzo, è? Sì. La razza, non so, non sono esperto di razze per i pappagalli. No, ma come allevatore, che fa? Come allevatore di pappagalli? Senta, Giuseppe, ma già mi ha rotto le scatole. Silvia da Brescia, buonasera. Se ne vada a casa, si faccia una bella riposatina, stia con sua moglie stasera che mi sa che ne ha bisogno. Silvia, Brescia. Pronto? Buonasera, cara signora. Buonasera, signor Crociani. Come sta? Mica male, lei? Beh, me la cavo. Lei sta benone? Me la cavo. Guardi, molto brevemente. Molto brevemente, sì, molto lei, brevemente. Ecco, molto brevemente. Lei conduce una trasmissione ricreativa. Una trasmissione? Ricreativa. Beh, questa non è male però. Con momenti di disinvolta volgarità. Sì. Bello. E momenti di divertente pettegolezzo e qualche insulto. Qualche insulto, comunque, bene. Comunque, la ottimo. Mia osservazione è questa, molto, sì. diciamo, anche un po' tecnica. Sì, e tecnica, volta, sì, certo. Lei in qualità di cosa parla? Così. La sua trasmissione. Sì. Dura un po' troppo, 2 ore e un quarto. Sì. Mentre invece la trasmissione successiva, che è il notiziario, effetto notte, dura sì. un'ora. Dura un'ora, sì. Quindi? Quindi? Allora, abbreviamo un Quindi? Pochettino. Sì. Lei dice abbreviamo. La zanzara a favore sì. del notiziario successivo. Del notiziario successivo. Non è un'idea sbagliata. Tutto non è un'idea... quello che volevo dire non, è questo. Non è un'idea sbagliata. Faremo presente, cara signora. Faremo Va presente. Bene. Buona serata. Questa cioè resta al telefono, resta. Io vorrei, cioè la follia non ha limiti, no? Alla follia non ci sono limiti. Molto educata. Ma signora, Silvia, come quello che ha chiamato. C'è uno chiama, uno resta al telefono per dire una puttanata di questo tipo, per dire una stronzata galattica così. Cioè sarebbe meglio se voi, come dire, se voi vi restringete per, come dire, per allungare il notiziario. Va benissimo, ma non ci sono problemi, siamo qui. Uno, quella cosa che mi stupisce è che uno chiama, resta al telefono, così per dire una cosa di questo. Vabbè, ma insomma, un mondo. Noi fermati. Ma noi sì, volevo. Non li vogliamo. Francesco, provincia di Milano. Francesco? Dimmi, sì. dimmi. Arezzo, sì. Siena Camurria, Parezzo. Francesco, sento, dai, su. Siena, ascolta, Parezzo. Ti ricordi l'altra sera parlavamo di Dell'Utri? Sì. Allora, ti rendi conto che è un perseguitato o no? Ma l'altra sera quando, scusa? Francamente. Vabbè, uno di queste sere qua, ci siamo parlati su Dell'Utri. Ma quando hai parlato? Non lo so, comunque andiamo al dunque. Ma ci siamo parlati dove? Qui al telefono. Ma quando? Ah, lei ha chiamato, dunque ha chiamato da un altro numero. Sì, vabbè, comunque. Ma non è vabbè. Può chiamare solo una volta al mese. Se lei chiama significa che utilizza un altro cellulare, fa il paraculo. Vabbè, lei è un paraculo, vabbè. Abbiamo capito. Vabbè, sono un paraculo. Allora? Voi due siete due camorriosi, siete. Siamo? Camorriosi siamo. Camorriosi, che vuol dire camorriosi? Ah, noi siamo rompicoglioni. Allora perché lei perché ma ci chiama? No, fate bene, ma no, io siete i migliori. Siete i migliori. Allora, Parenzio. Parenzo, sì. Parenzo, faccio però. Una riflessione a voi e a tutti quelli che ci radio, ascoltano, giusto? Sì, non tele, radio, sì, ma se non parli a voce alta, Parenzo, non si capisce, cioè borbotta. Cioè. Qua, come mai? Allora, Francesco? Ascolta, Cucciani, l'altra sera, ieri Alfano ha detto che non vogliamo i voti della mafia, eccetera, sì. eccetera, no? Che quello che ha detto prima Sgarbi. Sì. Ma il signor Alfano, quando era in Forza Italia, sì. si dice che Forza Italia era il braccio armato della mafia. Perché queste cose non le ha dette? Perché non si è dimesso? Saperlo. E adesso saperlo. Fa l'opportunista politico? Saperlo, grazie. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. Beh, caro David, vuoi fare gli auguri intanto a un uomo che si è sposato qualche giorno fa? Come no, è un amico carissimo, lui e la sua signora che conosco da tanti anni. Facciamo gli auguri, non ipocriti, auguri così, diciamo, per prendere in giro, perché dovremmo, assolutamente. È con noi Paolo Cirino Pomicino, buonasera. Buonasera a voi e grazie per gli auguri. Io li voglio per sinceri. No, le assicuro che sono anche sono alla sinceri. Signora, che io conosco da quando. Anche alla signora è stato vicino a me. Bene, me la saluti tanto. Ma io voglio dire una cosa, però, siamo un po' vicino. Caro ex ministro, eccetera, eccetera. Ma la sua età, di nuovo, lei è la prima volta che si sposa, no? La seconda, va bene. La seconda. Dopo tanto tempo, vabbè. Ma com'è che uno dice mi sposo? Il matrimonio, di nuovo il matrimonio. Io mi sentirei male, per esempio, personalmente, mi sentirei male a risposare. Ma questa è la decadenza della generazione di oggi. Lei cioè? È quella, la parola matrimonio vi fa sentire male. Cioè siamo decaduti? Decadenti, non ancora decaduti. Decadenti. Quindi voi si salveranno. Decadenti. Ma chi l'ha voluta di più, stanozze? Lei o sua moglie? Non ho capito. Scusa. Chi l'ha voluta di più, stanozze? Lei o sua moglie? Ma no, tutte e due. Tutte e due uguali. Non è che lei insiste. Viviamo da 14 anni insieme. Beh, mi certo. sembrava anche logico, certo. naturale. Ma non è che lei ha insistito un po' di più? No, abbiamo insistito. Invece tu resistevi, due, no? Non c'è bisogno di insistenza. Avevamo deciso che così si dovesse fare. Poi tra un'elezione e un problema ospedaliero abbiamo dovuto rinviare per qualche anno tutto qua. Ah, tra un'elezione. Tra un'elezione. Sì, perché avevo capito un'altra cosa. Abbiamo fatto insieme nel 2004 le elezioni europee, sì. nel 2006 quelle sì. nazionali, poi sì. si sono trapiantato. Quindi io voglio dire, insomma, abbiamo avuto di che fare, diciamo così. Il trapianto. E una volta che noi siamo rimasti tranquilli sì. e sereni, abbiamo giustamente pensato di regolarizzare almeno civilmente la nostra posizione. Questi giovani oggi che non si vogliono sposare, invece, questi giovani. Ma come diceva Padovaschioppa, buonanima. Bamboccioni. Prendevo un po' in giro. Bamboccioni, diceva, chiamava Bamboccioni. Esatto. Ma invece non è così, la verità è che molti di questi poi hanno, sono precari, e ho l'impressione che noi stiamo andando verso una direzione di marcia per cui saremo tutti più uguali nella povertà. Addirittura, beh, ormai io tento dire dal governo che dobbiamo colpire le pensioni sopra i 2.500 euro lordi al mese. I dirigenti statali che guadagnano più di 70.000 euro, cioè 3.500 euro al mese, tanto per intenderci, devono essere penalizzati. Io non sapevo che in realtà i ricchi d'Italia fossero i pensionati a 2.500 euro e i dirigenti statali. Ma lei che pensione ha, Pomicino? Scusi. Io ne ho 2008. Come, così poco? Poi ho preso dall'ospedale e 5 dalla Camera. Cioè 2008 dall'ospedale? Insieme faccio una pensione di un magistrato. Cioè fa una pensione di quasi 8.000 euro? 5 dalla meno, Camera. Meno, ma la 5 dalla Camera la vogliamo tagliare un po' o no? E perché? Ma io già, in verità, contrariamente a quello che si dice, la Camera nella sua autonomia già trattiene una quota di solidarietà, che sono 1.200-1.400 euro all'anno, se non vado errato. Vabbè, comunque lei con quasi 8.000 euro di pensione mi sembra abbastanza, lo possiamo dire, un privilegiato, diciamo la verità. Non mi sto lamentando, c'è dubbio, c'è, ma il vero problema è aumentare le pensioni e aumentare i salari, vabbè, non è quello di tagliare quelli che stanno, gli scandali veri, le pensioni a 90.000 euro, ci mancherebbe altro. Gli stipendi a 6 milioni all'anno ci mancherebbe altro, ma se poi si individuano che le ricchezze di questo paese sono i pensionanti, ha ragione, ci sono a 3-4 mila, 2.500 euro lordi, beh, mi sembra che siamo tutti fuori strada, cari. Però amici, scusi un attimo, lei non mi pare molto renziano. No, allora non mi pare. No, al contrario che pensa di Renzi? Sa che significa essere renziano? Che significa? Aiutarlo a non fargli commettere degli errori. Se invece tutto va bene, madama la Marchesa, però qualcuno potrebbe dire lei, Cirino Pomicino, uno dei responsabili del debito pubblico italiano. Ma dovete studiare, c'è il responsabile. Vabbè, qualche responsabilità nel debito pubblico italiano ce l'avrà pure lei, Pomicino. Ma assolutamente no. Nessuno. Per lei studiarsi dirà, come hanno detto la Società Italiana degli Economisti, che in realtà il primo governo che cominciò a risanare i conti pubblici fu il governo Andreotti, Carli e Pomicino, perché si dimentica che c'era un grande ministro del tesoro, era Guido comunque Carli. Nella prima Repubblica qualche cosa sul debito pubblico è stata fatta, vi posso a volo insegnare una cosa, la prima Repubblica ha lasciato 839 miliardi di euro di debiti in 40 anni, la seconda in 20 ne ha fatti 1.200 e ha impoverito il paese. Allora, la prima ha salvato il paese e la seconda invece l'ha impoverito. Non l'ha salvato, certo, noi l'abbiamo salvato dal terrorismo e dall'inflazione a due cifre. E dal comunismo. Oggi l'inflazione non c'è più nel mondo, con la globalizzazione non c'è più nel mondo. Noi siamo l'inflazione al 20%. Ma lei potrebbe fare ancora... Scusi, Pomicino, mi dica la verità, ma lei sarebbe ancora in grado con quelli che ci sono adesso di fare il ministro dell'economia? Diciamola chiaramente. No, beh, che dubbio, c'è domanda. Soltanto che non ho voglia, perché non ho l'età, e per fare il ministro ci vuole innanzitutto la salute, oltre all'intelligenza, l'acume e l'esperienza politica. Ma perché non dite ai vostri radioascoltatori una cosa che è divertente? Che dobbiamo dire? Stai solo in Italia. Cioè? Da 21 anni l'economia italiana è messa nelle mani di tecnici, mai di politici. Questo è vero. No, c'è stato Tremonti. Vero. C'è stato Tremonti. Vabbè, Tremonti è politico, mi sono un letterato cinese. Ma no, dai. È un tecnico prestato alla politica, infatti non fa più politica perché non ha più la funzione di tecnico. Ma questo senza offendere i tecnici, perché sono delle comunque, persone di grande qualità. Lei all'economia ancora, ancora qualcosa da dire. Farebbe la sua porca figura, diciamola tutta. La mia brava. Vabbè, in senso porca figura, io dico in senso così. No, è l'espressione che si usa, sempre questa espressione nel gergo. Io faccio la mia porca figura per dire una bella figura. Sì, io faccio la mia bella. Pomicino all'economia, sarebbe straordinario. Pomicino, il ritorno all'economia. Vedo già i grillini, li vedo già lì, questi qui pronti. Ricordate, perché oggi non c'è più, in una cosa seria, in una trasmissione bellissima come la vostra, oggi lo scontro non è più quello novecentesco tra capitale e lavoro, e ma da un lato capitale e lavoro insieme . E dall'altro la finanza, e questa è la grande sfida del terzo millennio e nessuno ancora l'ha capito, o per meglio dire pochi lo hanno capito. Quelli utilizzano la finanziarizzazione . E quelli che invece guardano la luna perché non hanno capito. Però come giudica Pomicino questa Forza Italia che si sta sciogliendo? Bonaiuti se ne va, Berlusconi, Dell'Utri catturato, Berlusconi in grande difficoltà, insomma Forza Italia sta finendo, diciamola tutta. Io sparo sulla Croce Rossa, naturalmente. No, però spari sulla Croce Rossa. Voglio dire, ma gli sembra possibile che poteva reggere un partito che si chiama Forza Italia? Avete mai visto un partito che si chiama Forza America o Forza... Forza America. Forza America, Forza Germania, Forza Spagna. Ma lì siamo ai mondiali di calcio. Insomma, ne parliamo. Beh, dal 94 però che c'è. Prego? Vabbè, dal 94 poi è scomparso. Scomparso, però dal 94, ragazzi, ma vada bene che ha resistito Forza Italia perché dall'altra parte c'è stava la Tinello, l'Ulivo, la Margherita. Beh, c'era un fiorire di fauna e di flora che era meraviglioso nell'ambito del sistema politico. Cioè, per lei dunque Forza Italia è morto, lo considera già morto Pomicino come partito? Ma presumo morta politicamente. No, beh, lunga certo. Vita a tutti, naturalmente. No, quello sempre, lunga vita a tutti, Berlusconi fino a 120 anni. A proposito, fosse lei nei panni di Dell'Utri, tornerebbe nelle galere italiane oppure farebbe di tutto per restare, non so attraverso quali artifici giudiziari, in Libano, il paese dei cedri? Guardi, posso dire una cosa, io non ho seguito tutta la vicenda giudiziaria, quindi nel merito non so dire niente. So però solo una cosa, che diventa difficile per un paese come, per qualunque democrazia moderna, avere un reato che non è stato deliberato dal Parlamento. Il reato di associazione, associazione mafiosa, non è stato mai deliberato dal Parlamento, è stata un'interpretazione delle sezioni unite. Dunque è un'ingiustizia questa cosa che ha subito Dell'Utri. Sì. Non c'è un reato e quindi presumo che abbiano anche difficoltà a estradarlo, perché non c'è un reato. Ma lei si augura che resti lì, Libano, libero, ma non vada in galera? Io prego totale il buon Dio che ciascuno trovi la strada giusta per andare in paradiso, possibilmente. Un attimo solo. Lo dico anche a voi che siete un po' impertinenti. Un attimo solo, che torniamo con lei. Paolo Cino Pomicino, da poco sposo con una signora di quasi 30 anni più giovane. A Cruciani, a decaduto. Non mi mordere il dito, non mi macchiare il vestito. Mi rompo i coglioni. Ma non mi mordere il dito. La voglia ce l'ho. Sei ancora a casa, Emo. E non mi mordere il dito. Non mi macchiare il. Siamo qui sempre con la voce di Marcellone Dell'Utri che ci accompagna ormai da mesi, da anni, direi. E ora da Beirut. E ora da Beirut. Io personalmente mi auguro che non torni in Italia. L'ho già detto. Galere italiane, a marcire nelle galere italiane. Marcire, poi insomma, non si marcisce mai. Uno come lui non marcisce mai. Però bisogna fare di tutto perché non rientra in Italia. Un consiglio che do ai suoi avvocati: fate di tutto, inventatevi qualsiasi cosa, non lo fate rientrare. E non mi morderei. Pomicino, se uno vuole, ha visto il caso Battisti, se uno vuole resta all'estero quanto vuole, basta farsi amico qualcuno. È più difficile, era più facile negli anni 70, ma ci si riesce anche adesso tranquillamente, no Pomicino? Beh, credo di sì, presumo di sì. Peraltro non in tutti i paesi ci sono i contratti e le convenzioni di estradizione, e in alcuni casi le convenzioni non coprono certi reati, in particolare poi certi reati strani che esistono solo in Italia. Ah, reati strani. O è mafioso o non è mafioso. Il concorso esterno è un'altra cosa. Non scordiamoci che per concorso esterno c'è in galera un tizio che si chiama Cuffaro. In galera, zitto quasi sempre, prega, è dimagrito moltissimo, eccetera, eccetera. Senta, ma l'abolizione del Senato, lei è favorevole? Che poi non è abolizione in realtà. No, è abolizione. E peggio ancora, è la umiliazione abolendolo. Addirittura. Si fa sembrare... C'è stato su questa vicenda, perché su questa vicenda si innesca un processo autoritario della quale però non so se c'è colpa o dolo. Ci sto studiando. Cioè, ma secondo lei veramente Renzi è ignorante dal punto di vista istituzionale? No, ma la può dire tranquillamente. O i suoi non riescono a comprendere. Cioè affidare le riforme alla Boschi. Il bimeralismo funziona male, non si modifica, ma non si abolisce la Camera. Perché andando avanti di questo passo si potrebbe abolire anche la Camera e anche il Governo, perché in realtà, ad esempio, la lotta alla burocrazia, sì, mica la fanno i burocrati, le norme regolamentari che affliggono il le famiglie, le fanno i politici, certo. Sì, i deputati e i governi, gli uni fanno le leggi, gli altri fanno i regolamenti. Non solo, allora, non solo, perché c'è il diritto amministrativo, che in Italia è una roba incredibile. Ma comunque, guardi, ci sono indiscrezioni, ci sono indiscrezioni sulle nomine, sulle nomine. Ascoltate. Un attimo, ci sono indiscrezioni sulle nomine. Ascolti queste, lei è esperto di nomine, chissà quante ne ha fatte nel passato di nomine. Chissà quante nomine ha fatto lei. Vai con i nomi. Marcegaglia Eni, mi sembra, no? O sì, sbaglio? Todini Enel. Todini Enel. Come Todini chi è? Quella che sta alla Rai adesso? Sì. Luisa Todini, questa cosa delle quote e rosa. Moretti, e Moretti a Finmeccanica, sì. Ecco, non capite, Todini dove andate? Todini Enel, credo amministratore delegato, non lo so, presidente, questo si vuol tutto da vedere. Sempre di AD, però, credo qui, No, presidente, presidente. È una mia testimone. Ah, è vero, una sua testimone di nozze, sarà Todini, molto amica di sua moglie. E le ha detto qualcosa? No, che gli ha detto? No. Ma figurati. Io sono precario, lontano di questi tempi. Allora, Marcegaglia, Eni, Todini, Enel, credo che siano presidenti, non lo so. Un po' come se ci fosse lei all'Enel, in fondo, no? Ecco. Sì, tale e quale, nel senso che sono... ho il quadro elettrico a casa. Moretti... No, io vorrei vabbè, dire non questo. C'è ancora l'ufficialità. Pomicino dovrebbe essere... Guarda, adesso qualcuno si arrabbierà sicuro. Però secondo me l'esperienza di Paolo Pomicino Cino. Dovrebbe essere valutata dal signor Renzi. E una bella... No... Scusa, una nomina. Ma no, piccolo... ma dai, una nomina a Pomicino, sì, sì, sì. Dai. Guarda, guarda. Nomina, ragazzi, ma non vi allargate. Meglio Pomicino di questi 5 Stelle. Io lo dico da sempre. Pomicino ha la dignità politica, almeno. Votato, cioè, Pomicino con non le avrebbe fatto, avrà una, fatto una roba qualche come casino quella di Grillo, bilancio, come quella di Grillo, mai su. Mai Pomicino avrebbe detto una stupidaggine come quella di questo comico da baraccone, mai. Quindi come giudica Grillo lei Pomicino? Ma che vuole, io nel passato ho dato anche 50 euro, come noto, sì, al è noto Movimento l'ha, 5 Stelle, l'ha quando, detto a noi. Quando era Movimento e oggi che cos'è? Oggi non si capisce, oggi io sono pronto a... siccome gli esami non finiscono mai, peraltro ci sono anche dei napoletani, anche Vivaci e ma Bari. Lo vota? No. Io voto a 5 Stelle. Ma voi siete impazziti, ragazzi. Ma perché, scusa? Chiediamo, no? Perché non può votare? Ma perché sono democratici loretiani? Il problema è di vedere... E chi vota allora? Lo so, e infatti... Oggi chi vota un democristiano? Un democristiano per chi vota oggi? Ci va a votare Grillo alla fine. Strumento, perché i democristiani sono... tantissimi e diffusissimi. Ma per chi vota? Per il PIL vota per Renzi, Pomicino, diciamo la verità. I democristiani guidano il Partito Democratico. Appunto, lei voterà per Renzi alla fine, per il PD. Uno. I democristiani guidano l'NCD. I democristiani guidano l'UDC. Vada con Alfano. I democristiani guidano l'ALDE. Con Tabacci. Poi? Ragazzi, è così. Vabbè, è così. Allora ho capito, per chi vota Pomicino? Non lo so. Vabbè, dai, più Alfano. Non lo so, che, dirò, sì. Io non scherzo quando dicono. Per Alfano, so. Dai, per Alfano. Sì, dai, per, alla fine no, voterà vediamo, per Alfano. Vediamo dai. Un attimo chi mi convincerà. Senta, ma io non ho capito, la Boschi che cura le riforme è una bestemmia, secondo lei? Ma no, ma vedi, il problema è vero. Insomma, io ho fatto anche un altro mestiere prima di fare il politico. Ho fatto il neurochirurgo, come è noto. Allora? Ma insomma, uno quando incomincia la prima volta ad andare in corsia, sì. Meno gli fanno subito operare o all'addome o al torace o alla testa, nel caso del mio, della mia società. Gli fanno fare il sottosegretario, diciamo. Per ma andare. Non gli fanno, no, gli fanno fare niente. E io i primi tempi facevo il cosiddetto ferrista. Sa che significa? Quello di passare i ferri, perché mandavo e davo nelle mani del chirurgo che operava i ferri necessari. Dunque la Boschi al massimo può fare la porta borsa, diciamo. E allora il problema è vero, che bisogna avere la pazienza e l'umiltà di imparare, perché dalle mie parti si dice nessuno nasce imparato, bisogna come dire, essere umili, apprendere e poi misurarsi. Dunque la Boschi alle riforme è una bestemmia, diciamola chiaramente. Non è una bestemmia, è come dire, è un terno all'otto. È un terno all'otto, vabbè. Senta, io però devo fare una domanda finale, una domanda finale, caro Pomicino. La domanda finale è questa. Alla sua età, con una non lo so che lei mi dirà, ma perché non muore? No. Ma per carità. Con uno che ha la sua età, che per carità, dopo tutto quello che ha passato, alla grandissima. Ma com'è il sesso alla sua età? Bello. Bello? Ragazzi, senza pillole? Sempre virile e bello. Ma senza pillole? Senza pilloline? senza pilloline, andare per il mondo, non so, arriverà il momento in cui si piglia la pillola, beh, si prende una pillola per il mal di testa, si potrà prima o poi prendere pure qualche altra pillola, no? Però per adesso senza io punturine. Io ne prendo tante. Vabbè, senza punturine e senza pilloline per il momento. Senza punturine, no, le punturine non esistono proprio. Vabbè, quello Berlusconi però le faceva le punturine. Vabbè, ognuno per sé, Dio per tutti. Ma lo sai che io ho saputo una cosa recentemente, Parenzo, incredibile. Cioè, pare che Berlusconi... Quello che sei tu è pericoloso. No, no, pare che Berlusconi, questo lo so per certo, negli anni ha mandato, mandava, quando si faceva le punturine, mandava i kit per le punturine ai suoi amici capi di Stato. Beh, questo sì. Cioè, lui, ma guarda che ti assicuro che è vero. Cioè, Berlusconi ha mandato. Però la notizia non è questa, la notizia Mubarak è che anche altri capi di Stato. La notizia non è tanto questa. Certo, la notizia è che altri capi di Stato hanno bisogno dell'aiuto. Ti assicuro che mandava a Mubarak, a Putin, a Gheddafi. Guarda che fine ha fatto Mubarak. Kit, sono finiti tutti male tranne Putin. Guarda che fine hanno fatto. Però, tranne Putin che vive vegeto, aspetta, e anche tutto. Porta anche perché pazienza. Putin non credo avesse bisogno di punturine. No, no, pare però che, ne sappiamo, che ne sappiamo. Però hai citato Mubarak e non mi pare sia in questo mondo. Ti assicuro, mondo. Il signor Gheddafi. Cioè, tu ti rendi conto, mandava i kit per le punturine ai capi di Stato. Cioè, da qualche parte ci deve essere, a casa della, dov'è la residenza di Mubarak, dov'è la residenza di Gheddafi, esiste ancora, un kit per le punturine mandato da Berlusconi quando ne faceva uso. Siamo al top, eh. Comunque. Però diciamo la verità, Berlusconi è stato un presidente del Consiglio frufru, solo che quelli che hanno un temperamento divertente e frufru non possono fare il presidente del Consiglio, tutto qua. Ah, lei dice. Lei dice. Ma adesso secondo lei che fine fa Berlusconi? Si dovrebbe rassegnare? Ma non c'è dubbio, c'è un momento in cui il politico e lo statista capisce che in realtà Lo so, però è difficile Berlusconi. Ma i familiari, Marina si dovrebbe candidare, che ne so, Barbara, no, lasciamo perdere. Non lo so se hanno passione politica, se hanno passione politica lo facciano. Perché poi fare politica è una cosa appassionata, appassionante. Mm. Se uno non ce l'ha la passione è inutile che si mette in mezzo, perché sennò la politica è una gran rottura per chi la sa senza passione. Io sono comunque con passione è una delle cose più entusiasmanti. Io sono sollevato dal fatto che dal punto di vista fisico, dal punto di vista anche dell'attività sessuale, che è comunque importante, diciamo la verità, l'attività sessuale è fondamentale nella vita. No, mi ha detto Pomicino, mi ha confermato una cosa. Che ma dove vai in viaggio di nozze invece? Questo è interessante. Mi pare di dire dove viaggio di nozze, ragazzi. Già ci ha detto che ancora è sessualmente alla grande. Vabbè, mi sembra più una domanda più onesta quella sul viaggio di nozze. Vabbè, non è più onesta. Io sono un curioso, sono un impiccione e faccio questa domanda. No, ma per carità. Io sono un impiccione. Una volta a settimana. Andiamo a Londra. Andiamo a Londra. A Londra, ecco qua. A Londra. Un abbraccio, Paolo Cino Pomicino. A presto. Ciao. Grazie. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Siamo abbastanza mai ricchi. Troppo. Siamo abbastanza ricchi e soprattutto ce ne vantiamo. Ce ne vantiamo. Non farlo sapere a Renzi. No, sennò quello c'è tassa, c'è bastona. Per carità. A presto, arrivederci. Buon lavoro. Non vi abbandonerò mai. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte. Ma che me ne frega a me? Io conosco Giuseppe e Davide, è sufficiente. Mi ha beccato, mi ha beccato. Gratta, gratta, ma peggio. Io non posso stare senza lo sbrocco di Antinori, non posso stare. Cioè, non riesco veramente a resistere senza sentire Antinori che sbrocca. Una volta a polpaccio e poi all'altro. Comunque voi, questa era, io non vi chiamerò mai. Vi devo dire, Cruciani, non chiamarmi mai più, siete una scorretta al televisore radio. Andate a quel paese, arrivederci. Rimanete ignoranti, continuate con questi pseudopolitici, arrivederci. Basta, non parlarmi più. Perché non parlarmi più? Pronto? Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non stai lontano perché tu sei un delinquente, arrivederci. Spegni la luce, passa dalla TV. Ma perché ha sempre questa voce così impastata? Questa voce incomprensibile. Bah, papà, chissà. Sono arrivato da David. Passa dall'orecchio e sempre gira intorno a te. Ma con chi stai parlando, scusa? Vabbè. Con mio padre Francesco da Torino, dai. È mio fratello. Ma che me ne fotte, dai. Francesco da Torino. Eccomi qua, buonasera Cruciani. Dimmi. Volevo dire una cosa molto veloce in merito all'affermazione che hai fatto, o ha fatto, chiedo scusa, prima. No, hai fatto, tranquillo, dai, hai fatto. D'accordo, hai fatto in merito a quella bomba carta scoppiata in mano. Certo. Hai ragione, hai ragione da vendere, la sottoscrivo, punto. Basta. Non ho capito. Piacciono tutte le volte le bombe in mano. Sì. Pronto? Un attimo. Pronto? Parla. Antinori? No, ha sbagliato. Ah, scusi, avvocato Di Peri? Francesco, allora? Che volevo solo affermare che sono pienamente d'accordo con te sull'affermazione che hai fatto poc'anzi. Sì. Che meno male che è scoppiata in mano a lui quella bomba, invece che a qualcun altro, addosso, creando dei danni e quant'altro. Punto. Scoppiassero in mano tutte le bombe a chi le vuol tirare. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il petto su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Ma parente lo pagate voi per stare in trasmissione? Pure lo spray a ti zanzara mi son messo il piede, ma lei gira sempre intorno a me. E balli sul twist, e balli sul twist, la zanzara twist. Francesca da Como. Buonasera. Meno male che gli ho scoperto la bomba carta in mano. Io gli voglio dire che gli sta bene, devo scoprire tutto il braccio perché sono degli stronzi. Ma poi io Parenzo volevo chiedere, ma scusi, ma a lei gli stanno antipatici i poliziotti? Tutt'altro, mio nonno era questore, figurati. Tutt'altro. Allora, no, però lui è talmente precisino. Lui tutt'altro, è talmente precisino. Mio nonno era questore, figurati un po'. Un attimo solo, Francesca. Chi è il professore questo? Chi è il conduttore? È il professore questo? È Seve? Pronto? Vabbè dai, Francesca, su! No, mi dica Parenzo come si dovrebbero difendere questi ragazzi che prendono una miseria al mese, tra l'altro, per essere... Nessuno ha attaccato i poliziotti. Ma non è che si debbano difendere, per i poliziotti non si devono difendere, devono fare il loro mestiere in piazza. Io ho detto, però, appunto... Però quando vengono, per esempio, quando prendono delle biglie di metallo in faccia durante... Ma certo, ma guardi che lei ha perfettamente ragione. Io sto dicendo un'altra... Armi ce li hanno per gioco, perché tanto non possono usarle. Certo, certo. Lo peroncino l'hanno inserito adesso perché prima era lesivo della dignità dell'uomo, poverini, ce l'hanno in tutta la polizia del mondo. Sono in Italia fanno ridere i polli. No, no, ma lei ma io su questo sono d'accordo, Francesca, con lei. Francesca, hai perfettamente ragione. Non dico il contrario. No, non sei d'accordo. Non sei d'accordo se ti scaldi per una pestatina, dai. Ti scaldi per una calpestatina. Sono dalla parte del questore. A differenza tua, sono da parte del capo della polizia, scusami. Beh, certo, capo perché dice che quello è un cretino, eccetera. Che dice perché lo deve dire per forza, No, perché è una persona per bene a differenza tua. È una persona per bene che difende le istituzioni, difende la polizia in questo modo, perché difende la polizia dagli abusi. Questo è il punto. Vabbè. Vabbè. Francesca, bene, allora... vabbè, la prossima volta ti faccio altra analisina di coscienza, magari in più. No, ma la calpestatina io considero continuo. Sì, è una calpestatina quella roba lì, una calpestatina. Vabbè, io l'ho vista, lo considero tecnicamente una calpestatina, no. Ma meno male che non dipendono da te, guarda. Ma io non c'è nessun problema, non c'è nessun pericolo che dipendano da me, per cui non è questo il punto. A parte che tu sei qui al caldo e non sei mai in piazza perché non Certo che non sono mai in piazza. Anche da cronista non l'hai mai raccontato. Ma chi te l'ha detto? A parte chi te l'ha detto? Sì, sì, come no, io odio le manifestazioni, andassero a fare culo, capito? Vabbè, punto e basta. Antonio da Roma. Una stupidaggine. Antonio. C'è manifestazione, manifestazione. In particolare quella di sabato. Pronto? Sì, dica. Ciao, senti, io volevo rivolgermi a Parenzo. Innanzitutto ti volevo chiedere, ma sei andato mai al catasto di Roma a prendere la piantina delle case degli ACP? Prima di parlare, perché le persone che stanno in piazza non vanno a occupare quelle case, vanno a occupare le case dei costruttori che le costruiscono e noi stronzi che se le compriamo, capito? No, noi, per comprarsi quelle case ci famo un culo come una capanna, capito? Secondo voi queste persone, oltre che non hanno il lavoro, quando vanno dentro le case degli ACP, lo sai che ti paga? Con che pagano se c'hanno il lavoro? Ma quale casa degli ACP? Ma è gente che vuole la casa senza guadagnare, senza prendere. Apposta! Basta, c'è gente che si fa un mazzo, c'è gente che si fa un mazzo così e quelli scendono in piazza per il diritto alla casa. Non esiste il diritto alla casa! Non esiste! A Cruciati devono andare a comprare! Vai a fare il muratore, vai a raccogliere immondizia a mezza strada! Ha capito? Ha rotto il cazzo quello, scusate il termine, ma io sono stato uno che si è ritrovato dopo che si è comprato casa, la gente dentro casa. Io non ho chiamato i carabinieri o la polizia. Un altro problema questo. Capisci? Non ho chiamato né carabinieri. Basta con queste inutili mani, il diritto alla casa, ma quale? Quale? Si lavora? Si affitta la casa? O uno se la compra, punto e basta. Luciani, io per comprarmi casa ho fatto 10 anni di Jugoslavia, sono stato, capisci? Jugoslavia e Kosovo, abbiamo, mi hai visto mettato addosso. E quando a queste persone qua gli dici vai a fare il servizio militare, lo sai che ti rispondono? Tu ce vai a far servo. Capito? Certo. Agli stronzi li proteggiamo noi. Sono gli stessi che sono andati dal. Sono gli stessi, amico mio, caro Antonio, sono gli stessi che sono andati dall'autista di un magistrato a Torino, dall'autista di un magistrato in 3 incappucciati e lo hanno picchiato da codardi, da vili, quali sono le stesse persone, uguali, sono pari uguali. Ma infatti nessuno difende quelli con no, la tuta aspetta, blu, eh. Sono quelli che sono andati da un lavoratore, da un onesto lavoratore, l'autista di un magistrato che fa un lavoro duro, onesto. E certamente non particolarmente remunerativo, l'autista di un magistrato dandogli del servo e picchiandolo per strada in 3 incappucciati, capito? Questi sono ma i signori. Io difendo questi qui, eh. No, no, così, tanto per precisare. Questi incappucciati qua. Beh, spettacolare, è Riccardo Nuti, deputato dei 5 Stelle di Palermo, che è stato civile, ha scritto Nubile. Stupendo. Carlo da Padova. Pronto? Sì, senti? Carlo, dimmi. Cruciani, io volevo dirti che tu hai la fortuna, o forse te l'ha messo là apposta Parenzo per non farti fare troppo la figura da scemo. Sì. Perché dici di quella cazzata che non te ne rendi conto. Per esempio, dimmi. Eh beh, per esempio ti ricordi quando c'era la Maiolo che diceva che anche il mio cane ha insegnato a non pisciare sui muri paragonandolo ai neri e giustamente Parenzo diceva sì, guarda, risale a 5 anni fa questa roba qui, no, no, a 4 anni fa, cita sì. Una cosa più recente, cita una cazzata che ho detto più recente, Carlo, ma è difficile ricordarsi a tutte. Beh, allora se non le ricordi non parlare, l'ultima. La casa non è un diritto. Certo che non è un diritto. No, scherzo. Allora, il lavoro è un diritto. Ma quando mai? Ma quale diritto? Ma sono cose. È previsto dalla Costituzione. Ma chi se ne frega della Costituzione? Sono parole generiche. Su, dai. Allora, l'unico diritto che è assicurato in Italia è sparare cazzate come te. Quello è sicuramente assicurato. Un diritto assicurato, su questo non c'è dubbio. E lo rivendichi con forza. Assolutamente è un diritto, ma non c'è dubbio che sia un diritto. Giustamente si sono resi conto che se spari troppe cazzate, hanno pensato bene in mezzo a Parenzo che un pochino ragiona e ti cerca di far ragionare. Bravo, benissimo, perché, Carlo. Benissimo. Allora, renditi conto che la casa non solo è un diritto. Sì, è arrivato lui, è arrivato Carlo da Padova. Sì, Carlo da Padova afferma che la casa Carlo è un diritto. Sì. Perché, mio caro, le persone dove vuoi farle vivere? Sotto i ponti, per la strada, poi ti danno fastidio perché se vanno sotto i ponti o per la strada poi magari ti fanno anche le nemmosine. Guardi, purtroppo Carlo, non esiste ancora una società che ha eliminato i barboni, ha eliminato i poveri, no, purtroppo, purtroppo. Barboni, i senza casa, eccetera. Non è questo. Non esiste una società che li abbia eliminati, certo, ha capito? Questo, d'accordo. Ecco. Non voglio eliminare i barboni. I barboni, se vogliono fare i barboni, lo possono fare. Io voglio dare la possibilità alle persone di vivere, capisci la differenza? Sì, va bene. Non è difficile. Va bene, hai detto la tua banalità, dai. Ciao. No, lui non ti ha spiegato, perché lo ha interrotto, che la questione della casa non è che devi regalare la casa a qualcuno. Mi fai parlare nessuno un attimo? Nessuno ha sostenuto questa roba. Avvocato Di Peri? Si parla. Sì, mi scusi, sono Cruciani, Radio 24. Mi scusi se la disturbo. Radio 24, Cruciani, mi scusi se la disturbo. Salve, come sta? Non tanto bene. Appunto, no, volevo sentire, malato, volevamo sapere questo. Ma com'è possibile che siete tutti e due malati, lei e l'avvocato Grog? L'avvocato Grog, poveretto, è anche ricoverato in ospedale. Sì. Ah, caspita. Io fortunatamente da venerdì ho un problema, però insomma. Che problema? Non esco di casa, e beh, questo mi pare che ci sia la privacy. Vabbè, così per sapere, sai, è abbastanza curioso il fatto che siete in due, tutti e due malati. Per carità, uno dice, non c'è limite. Guardi, il rinvio non è per niente strumentale, perché lei saprà di sicuro sì. che quando l'impedimento e il rinvio quindi è chiesto dai difensori, la prescrizione viene congelata. No, ma io, non, no ma io non dicevo per la prescrizione, ormai la prescrizione, figuriamoci, non è quello il punto. No, e è, qual è il punto? È curioso che... No, qualcuno potrebbe dire, avvocato, che prendete un po' di... Lei è malato sicuro e il suo collega poi all'ospedale, poverino, tantissimi auguri. Ma qualcuno potrebbe dire che per studiare meglio la tecnicalità della questione dell'espatrio con Bello... Ma neanche per sogno. Prendete qualche giorno. Qualcuno come... potrebbe dire, amico mio, però... Guardi, neanche per sogno. Ho già dichiarato diverse volte che sì. per... procedimento libanese se ne occuperà un avvocato del luogo che io sì. non ho assolutamente contattato. Senta, ma quanto tempo ci vorrà secondo lei per vedere dell'utri in Italia? Posto che io lo vorrei che rimanesse in Libano, come lei sa, Dipende dalla legislazione libanese, che è piuttosto articolata. Oggi l'udienza sembrerebbe saltata. Ma secondo lei dell'utri punta a rimanere in Libano per almeno per che ne so, magari anche per scontare la pena, che ne sappiamo? Dove? In Libano. Perché speriamo no? che la pena non sia da scontare. Vabbè, e che certo, la Cassazione, cioè, quando sarà, sì. annulli la sentenza. Sì. Per il momento io sono sicuro che quello di Dell'Utri non è un piano di fuga, come lei può intuire, posto che ha lasciato tracce dappertutto, ha utilizzato... No, quello è vero, ha utilizzato le carte di credito e tutto, però uno potrebbe dire si era organizzato per la fuga, poi è saltata qualcosa. No. Ma guardi, scusi, se si fosse organizzato per la fuga certamente non sarebbe andato a finire a Beirut. Peraltro c'è un biglietto, mi dicono, io non sono a conoscenza, che rivela che sarebbe rientrato dal Libano. Quindi c'è tutta una situazione che certamente non depone per un piano. Quando era previsto il rientro dal Libano di questo biglietto? Interessante questo. Credo che fosse, no, lo scrivono i vostri colleghi, credo che fosse forse il 25 di marzo, non saprei. Ma lei non l'ha visto il biglietto? No, il primo rientro. Senta, però ci sono diverse versioni sui motivi per cui lei la prima volta, proprio quella di 24, disse che era per motivi... Scusi, lei mi sta registrando? Sì, siamo in diretta. Senta, ma lo poteva anche dire. Lo so, però noi facciamo ogni tanto delle cose così al volo, ma mi sembrava chiaro. No, ma a quest'ora... L'orario in cui c'è la zanzara, sì, ha ragione. Avvocato, no, la cosa che volevo chiarire è una. Cioè, è andato lì per motivi di salute, per commerciare con i cedri, per affari del figlio o per motivi politici, come ha suggerito. Guardi, Berlusconi, io non so per quali motivi fosse a Beirut, ne posso escludere che questo sia un piano di fuga, perché come la persona più elementare con intelligenza può intuire, non si utilizzano le proprie carte di credito, il proprio cellulare, non ci si registra il proprio nome. Vabbè, se si vuole pianificare una fuga. Però lei all'inizio... Questa è una cosa Lei la prima volta ha detto è lì per motivi di salute, però in realtà poi sembra di no. Io le dico, come io non io, lo dice il dottore Dell'Utri nel suo comunicato, che comunque si trovava in Libano per un periodo di riposo e di convalescenza, già che era stato precedentemente operato. Ho capito. E beh, questo mi pare che abbia letto anche lei. Però no? Insieme a questa roba qui c'erano degli affari. Vabbè, lei non lo sa. No, io non lo so, perché lei non sa niente, figuriamoci. Non ho parlato con il dottore. Senta, un'ultima cosa, ma lei che cosa ha esattamente? Una febbre, un problema allo stomaco? Per carità, la privacy è sacra, però così. Allora, se la privacy è sacra, la prego di non farmi la domanda. Ma che ne so, una cosa che le impedisce valuterà la Corte di Cassazione se gli impedimenti sono validi oppure no. Certo che è curioso, tutti e due avvocati, tutte e due. No, non è curioso sfortuna. Per niente, guardi, le posso assicurare. Non è curioso, cioè capita, può capitare, dice lei. Anche perché il rinvio non può essere strumentale. No, ma non è per quello. No, è per questo che lei mi fa la domanda. Uno, perché, come lei sa, il rinvio chiesto dall'avvocato congela la prescrizione. Secondo, perché il rinvio è comunque dannoso per il dottore Dell'Utri. Perché rimane dove il dottor Dell'Utri? Ora, dov'è fisicamente? fisicamente credo che sia presso un posto di polizia. Sì, sì, della, ma in una foresteria, non in un carcere libanese. No, non credo. Comunque, avvocato Di Peri, lei non ci vuole dire niente, ma mi sembra che stava mangiando una minestrina prima, o sbaglio? Stavo mangiando una cosa molto più robusta della minestrina. Molto più robusta, però non la sento perché male. Il mio malessere non è di carattere sostanziale, è un malessere articolare. Ah, un malessere articolare, cioè deambula bene. Adesso devo salutarlo. Va bene, poverino. Un abbraccio. Buon lavoro. Mi si riprenda, avvocato. Grazie, mi si riprende. Buonasera. E guardate, ho visto che avete molta pubblicità, quindi guadagnerete moltissimo. Auguri e complimenti. Rosa, rosa, rosa, se va bene rosa, ma poi invece sa bruciare proprio addosso a me. No! A Cruciani, a decaduto! A Zanzaras, mamma mia, no, che fastidiosa! Allora, io non ho difeso il poliziotto che ha calpestato la ragazza, non l'ho difeso. Ho detto anzi che probabilmente è un cretino, che istintivamente ha fatto una stronzata, eccetera, eccetera. Però non è niente, non è che l'ha picchiata selvaggiamente. Dico semplicemente che se uno va a fare casino e quei due là, anche quello che la copriva poi, il tizio là, tutti hanno detto no, non c'entrava niente, pare che poi, dalle foto, era lì anche lui incappucciato, no? Incappucciato. Una calpestatina. Siccome c'era una foto, adesso pagherà, per carità, è tutto, pagherà. Perché funziona così? Sì, pagherà, per carità, va bene, pagherà. Funziona che quando in democrazia... Ma va bene, pagherà perché è stato beccato con la foto. Non pagheranno quelli che hanno devastato la città, invece. Non pagano mai con i caschi coperti. Non pagano mai quei delinquenti. Adesso pagherà il poliziotto perché ha dato la calpestatina, capito? Siccome ha dato la calpestatina, pagherà. I delinquenti, invece, siccome non ci sono leggi adatte, non pagheranno mai. Sì, le stagioni non sono più quelle di una volta, eh. Ma è arrivato lui, sempre ad assolvere. Non esistono più le mezze stagioni. Sì, sempre ad assolvere. Non l'hai visto più quello. No, smettila. Non è più, devi stare zitto! Squilla il telefono intanto, e non risponde nessuno. Vabbè, Marco da Roma, vai. Buonasera Cruciani, buonasera Valerio. Dimmi. Stiamo andando al mitico tour di Beppe Grillo qui al Paleuro a Roma. Siamo tre idioti che abbiamo pagato 30 euro per ascoltare la verità stasera, la fascia di Parenzo e di tutti i radicalcicchi come lui che ci prendono in giro. Ripetiamola questa cosa, Parenzo ha detto che sono idioti quelli che vanno allo spettacolo di Grillo pagando il biglietto, idioti. Marco, quanti siete in macchina? Ma guardate che lo fanno anche in Germania, Ma cosa fanno in Germania? Non ho capito. Marco, quanti siete in macchina? Siamo in tre, io, Claudio e Gaetano. Siamo davanti al Paleuro, ci saranno 10.000 persone, uno spettacolo vero. Allora? Che vuoi dire? Per ascoltare la verità. Parenzo, perché non vieni anche tu? Ti aspettiamo a braccia aperte. Invece di leggere Repubblica. Perché io non spendo 30 euro per ascoltare cose trite e ritrite che già ascolto ogni giorno nei suoi comizi gratuiti per lavoro, purtroppo. Quindi non scusa, spendo Marco, 30 euro. Marco, ma a lei dà fastidio il fatto che oggi Grillo abbia messo sul suo sito il post con P2, il cancello di Auschwitz? A me non dà fastidio nulla, a me dà fastidio chi ha portato questo paese alla fame, che sono il PD e il PDL. Citare Primo Levi, evocare l'Olocausto, le dà fastidio, sì o no? Non gli frega niente. Non dà fastidio nulla, non manco mi dà fastidio sa. Nulla, sono solo appunti che fanno per rompere le palle al Movimento 5 Stelle, che in questo momento è il primo partito in Italia. Che ti piaccia o no, Parenzo, hai capito o no? Ma chi è quest'altro che ride? Chi è? Mi dico Claudio, te lo passo. Passami Claudio, dai. Claudio, ascoltate la zanzara voi? Sì, spesso, sempre. Noi lavoriamo nel servizio pubblico qua a Roma e siamo obbligati a ascoltare la zanzara perché... Che vuoi dire a Parenzo? Parenzo, io lo stimo, gli vorrei dire tante cose, adesso non mi viene in mente niente, però... Lo senti, Marco? Chi è che dice via i froci? Marco io vorrei soltanto che gli capisse un pochino la mente, cioè che non stesse sempre chiuso nel suo cunicolo, diciamo, ecco. Sì. I salottini grati calcini, come dice sempre Marco, il salmone, il calciato. Comunque vi saluto, siete troppo forti, mi piacete. Ciao amico, ciao. Federico da Roma. Sì, eccoci. Federico, dimmi, dai. Tutte scatole da due. Era 8. Federico, che stai facendo, scusa? Federico? Pronti? Scatole da 2, da 8, che stavi comprando? Pronto? Panini con hot dog. Ma che scatole da 2, da 8, ma che stai a dire? Dai, su, Federico. Stavo a chiedere a mia moglie se le scatole, se le buste dei panini erano da 2 o da 3. Ma quando mai, dai, su. È così. Scatole dei panini da 2, da 3, ma che ci sono le scatole dei panini? No, le scatole, le buste, come si dice, le bustine dei panini. Ma che ci fai con le bustine dei panini? A Cruciasso è passata un'ora, io nel frattempo siamo andati a fare la spesa, ho preso i ragazzini di 7-11 anni che volevano l'hot dog e quindi... Ho capito. Allora? L'hot dog, io con una certa ipocrisia stavo chiedendo a mia moglie quanti panini erano, perché se ne avanza uno me ne mangio un altro. Ecco, e mangiatene un altro, va, mangiatene un altro. Vai, dimmi, dai. Però, dimmi. Siccome la cosa, pensa che ero partito dalla caccia di venerdì, sì. Nel frattempo siamo passati talmente da un'altra roba interessantissima. Prima ero in un luogo caro a Sgarbi, mi dispiace che non ho potuto salutarlo perché ero nella Basilica di San Pancrazio che lui contribuì a fare restaurare anni fa, sì. Qui a Roma. Sì. E vabbè, comunque non fa niente. Poi ho conosciuto Dell'Utri tanti anni fa, si è parlato Dell'Utri quando lavoravo nella casa editrice con cui aveva rapporti, una delle persone più colte d'Italia, sono d'accordo con te sul fatto che debba rimanere lì e non tornare qui da noi a farsi torturare, perché veramente è una situazione assurda. Però se si parla di Stato di diritto, lo Stato di diritto è una cosa per la quale il reato per il quale è perseguito Dell'Utri in effetti non esiste, allora bisognerebbe anche dire che magari se i poliziotti, che giustamente prendono a manganellate chi rompe coglioni in piazza a Roma, fossero però identificabili, sarebbe un po' meglio. No, Federico, assolutamente no. Questa qua è una proposta fatta anche oggi, ribadita dai miei amici radicali. No, i radicali è una roba che propongono da anni, sì, dai 5 Stelle, SL, che vogliono addirittura il casco con numero identificativo. Il numeretto. Numeretto. Giustissimo questo. Sarebbe una follia, sarebbe una follia. Vedi che anche i 5 Stelle ogni tanto... Ma chi ha detto che c'ha i 5 Stelle, dici, come partito? Sarebbe una follia inenarrabile, secondo me. Scatenerebbe ad ogni azione di un poliziotto una caccia all'uomo pazzesca. Cioè, questa è la realtà. Non c'è bisogno di questa roba qui. Non c'è assolutamente bisogno. Grazie, Federico. Intanto pare che ci sarà questa sera un incontro tra Renzi e Berlusconi, anzi è certo, Sky TG24 lo dà per certo, incontro questa sera tra Renzi e Berlusconi, con successive polemiche che ci saranno. Ma abbiamo con noi, caro Parenzo, un personaggio che ti piacerà moltissimo, il leader del Movimento Con Cristo per la Vita. Movimento Con Cristo per la Vita, si chiama Lino Nasato. Buonasera. Come sta, Nasato? Bene. Se la cava? Me la cavo benissimo. Combatte in questa società atea, in questa società senza morale, in questa società disperata in cui non si fanno più figli o se ne fanno pochi, in questa società che ha l'aborto, il divorzio, adesso pare anche il divorzio breve, in questa società ormai perduta secondo la sua visione, o no? Questa società che non prega più, ricordati, non si prega più in famiglia. E se uno non si prega più? Beh, non si prega più, per esempio, non prego, che faccio? Sono perduto, secondo lei? Sono ormai. Altre ragioni. Si deve pregare, altrimenti si altera tutto, ricordati. Salterà tutto, dice lei. Sì. Ma vogliamo fare gli auguri a quella coppia di omosessuali straordinari che oggi hanno certificato presso il comune di Grosseto la loro unione gay. I due ragazzi, i due signori, un po' age, devo dire, non tanto giovani, uno di Grosseto e l'altro di Milano. Vogliamo fare gli auguri, signor Nasato? No, li dico, mi fanno pietà prima di tutto, no, perché danno scandalo ai nostri ragazzi, danno scandalo. è danno scandalo, la famiglia, così come si fa tra uomo e uomo? Ma che famiglia è? Siamo diventati pazzi. Scusi Nasato, questi due però ormai in Italia praticamente grazie ai giudici si può convolare a nozze anche tra omosessuali, o no? No, dobbiamo pregare prima di tutto per i giudici che non capiscono niente, anziani che sono come quelli, quei giudici che hanno condannato Susanna nel Vecchio Testamento. E addirittura. Giudici. Sì, sì, sì. Scusi, dobbiamo pregare per questi giudici. Perché le fanno pietà? Mi fanno pietà. Questi ragazzi, questi signori che si sono uniti in matrimonio, questi omosessuali, questi gay, diciamo la verità, lei come li chiama, Nasato? Gay, omosessuali, froci, come no, li chiama? No, sono persone, noi preghiamo per questi. Ma scusi. Perché danno solo scandalo. Danno scandalo, si vogliono bene, si baciano, fanno l'amore. Sì, continuate, vedremo i nostri figli, i nostri nipoti. Che succede ai nostri nipoti, ai nostri figli? No, è una cosa che fa rabbrividire. Rabbrividire addirittura. Scusi, però. Scusi, lei. No, scusi, oltre ad avere questa voce, sì, davvero che mette. Aspetta, che si sente un po' male, mi dica. Sì. No, è una voce la sua anche che fa riflettere, perché ogni parola sembra quasi una sentenza. Sembra un esorcista lei. No, che esorcista? No, io non sono esorcista. Io faccio parte del movimento Con Cristo per la Vita. Ecco, questo è singolare pure questa cosa. Il movimento Papa Francesco ha detto: andate nelle piazze a testimoniate. Sì. Difendete Cristo, Maria, sì, la Madonna. Va bene. Difendiamo Cristo, Maria, la Madonna. No, ma questo va benissimo se lei lo fa. Scusi un attimo, questi due signori, lei come li definisce questi due signori gay? Ma perché non vuole pronunciare la parola gay omosessuale? No, solo mi fanno pena. E noi del movimento preghiamo per queste persone che stanno sbagliando, si ricordi, stanno sbagliando. Scusi, ma se questi stanno dando scandalo. D'accordo, questo l'abbiamo capito. Scusi, signor Nasato, però se questi qua hanno voglia di fare all'amore tra di loro, di unirsi anche sessualmente, che male c'è? No, ma loro possono fare qualcosa. Sanno che devono sapere che stanno sbagliando, ha capito questo? Stanno sbagliando. Non devo ripeterlo 100 volte. No, per carità, non deve ripetere 100 volte. Ma allora viare. No, non lo faccio arrabbiare, mica. Stanno sbagliando. Dunque, no, ma di che cosa vive adesso, al di là di questo signore qua, nella vita, di cosa si occupa? Che fa nella vita lei, signor Nasato? Che fa nella vita lei? No, io adesso sono pensionato. È pensionato? Io ero emigrante in Canada. Emigrante? E queste cose che succedevano in Canada tanti anni fa, ora adesso capitano proprio qui in Italia. Una desolazione, ragazzi abbandonati. Sì. Ma dove andiamo a finire? Questa Europa ormai è un'Europa pagana, pagana. Ricordi? Non c'è Europa dubbio. Pagana, e Italia vuole andare a correre dietro a questa Europa. Però, povera Italia, non vede come siamo messi? Ma come messi? Pagana? Non c'è più serietà. Non c'è più serietà, non c'è, è una cosa. Scusi, no, ma non lo dica però. Tanto per dire. No, è la verità. Però scusi un attimo, ma sembra un'analisi un po' eccessiva, ecco. Però scusi, signor Nasato. Come? Non ho capito. No, un'analisi eccessiva, dice Parenzo. Scusi un attimo, ma lei è contrario anche all'aborto, per caso? Sono contrario all'aborto. Ma è possibile che in Italia ormai è diventato un paese di vecchi? Bambini che uccidono 5 milioni. Ma è possibile? Beh, 5 milioni adesso. Chi è che 5 milioni che cosa, scusi? 5 milioni di creature in 30 anni sono stati uccisi. Ma sai quante colpe che abbiamo? Nessuno che difende i parlamentari. Neanche il Presidente della Repubblica ha osato dire una parola per difendere questi bambini. Beh, certo, perché dovrebbero indire una giornata alla memoria di queste creature. Beh, si ricordi? Morto, lei dovrebbe essere il promotore di queste cose. No, io no, perché io sono a favore dell'aborto, caro. Ah, lei è a favore, bravo. Vedremo queste anime sante. Io sono a favore dell'aborto, io sono a favore di tutto quello che lei dice una cosa, io sono sicuramente a favore del contrario. Su questo non c'è dubbio. Scusi, signor Nasato, ma lei anche mi riferiscono che lei è anche contro la convivenza. Cioè lei è contro. Sono anche contro la convivenza. Pure. Noi bisogna guardare i principi cristiani. Ma non bisogna per forza. Ma non possiamo essere come le bestie che ci uniamo con uno con l'altro. Ma i figli che nasceranno, chi è che li guarda? No, però scusi, Nasato. Ragazzi, ma vedi i ragazzi che sono. Mi sembrano. Sono tutti. Non vedi un ragazzo gioioso. Ma sono, sono molto effeminati i ragazzi oggi, secondo lei? Sono effeminati? Come effeminati? Cioè, ci sono molti omosessuali in giro, molti froci? No, ma che. Sono ragazzi tristi. Quando che manca la serietà. Ah, beh, che certo. Si uniscono, fanno anche la serietà, vedono questi sì. genitori che non sono genitori perché si uniscono come le bestie. Come le bestie, sì. Questi bambini, chi è che gli insegna la serietà del vivere? Non lo so. E Renzi come in questo? Renzi? No, Renzi, essendo cattolico, sì. se non difende i principi cristiani, sì. ma cosa sta facendo là? Infatti... vuole le unioni di fatto. Le unioni gay, sì. Mi sembra che ho sentito che ha detto sì, questa parola. L'ha detto, sì, più o meno. Devi difendere i principi cristiani se è cristiano. Altrimenti che lasci la poltrona e che vada via. Ah beh certo, infatti se non risponde ai principi cristiani deve andare via. Caro Nasato, la saluto e intanto chiamo in causa Amedeo da Milano per 30 secondi. Stia bene, eh? Amedeo, 30 secondi, sì. Forza, vai. Buonasera. Dimmi. Certo, intervenire dopo questo signore è molto difficile. Vai, 30 secondi, no, Amedeo, dai. Tranquillo, comunque, no, io volevo solo stigmatizzare il fatto di questa ogni tanto periodico accanimento contro le forze dell'ordine per i fatti di Roma. Quando periodico accanimento, adesso quello si è consegnato, ha calpestato, quello io chiamo la calpestatina, avrà un piccolo provvedimento se quella ragazza non si è fatta male. Intanto quelli non pagano mai, a domani 18:30. Secondo me la sua trasmissione dura un po' troppo, 2 ore e un quarto, mi sembra strano. Allora, abbreviamo un pochettino la durata della zanzara a favore del notiziario successivo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30, so, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Spettacolare. Radio 24. La passione si sente. Stazioni di servizio Costantin. Carburante a prezzi bassi ad ogni ora. Vi ha presentato La Zanzara.